Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Cari amici di Dietrologia Videoludica, benvenuti in questo nuovo episodio, il 15° della prima stagione di Dietrologia Videoludica. Io sono Stefano Biggio e con me c'è il piccolo Simone cognome Andreozzi. Buonasera, buongiorno e buon ascolto, insomma, chi ci ascolta. Esatto, bene, chi ci ascolta, chi non ci ascolta, buongiorno lo stesso. Devo fare un intro intimista. Sì, un intro intimissimo. Una notte appena finita, quando un giorno è appena finito. Esatto, piano piano. Sotto piano piano. Poi mancano all'appello più o meno tutti, chiunque, Simone Pizzi adesso è in Camporella con Marco Gualdi, Pepe Saso doveva costruire delle bombe carta per fare degli attentati, ma abbiamo comunque il nostro ospite speciale, e ospite che chi segue IPN probabilmente conosce da Calavera Caffè, ma anche da altre cose di cui parleremo più in là, ovvero Cristiano Caliendo. Buonasera, buonasera a tutti. Questa è la mia prima ospitata in assoluto in podcast, quindi abbiate pazienza, mi sento orfano di Pizzi, per cui mi ho lasciato solo al mondo. Ma sei in buone mani, come Pizzi, sì. Come Pizzi ha sempre detto, ti lascio in buone mani. Sì, no, sono assolutamente sicuro, però io senza la gag della mia microsigla non mi trovo, cioè è una cosa... No, è vero, tra l'altro sono ore che io ho la tua voce nelle orecchie, perché da stamattina sto sentendo... Sì, ho recuperato... Sono vicino, del dolore. Ho recuperato Calavera e tra l'altro devo fare i complimenti, li faccio anche qui in registrazione, diciamo, in diretta. No, vabbè, l'abbiamo concordata questa parte. Sì, chiaramente. No, parlavo con Simone prima al telefono, perché non, cioè, un'ora fa non si sapeva neanche chi doveva fare cosa. E quindi stavo al telefono con Pizzi e ho detto, comunque, complimenti, li faccio, li rinnovo anche a te, insomma. Grazie, grazie. A me non mi sta bene che registri senza esatto, di me. Esatto, ha detto, però, vabbè. Calcola che adesso gli ho detto Simone e Stefano ancora non si è svegliato. Strano, ma ha fatto. Stefano sta bene, svegliato. Cioè? Che ancora non si è fatto. Che ancora non è rientrato, no? Che stavi a dormire. Ho detto, non so che fine ha fatto Stefano. Ah. Strano. Sì. Vabbè, ho fatto un riposino di un'oretta per essere. Ma tu fai bene. Come dire. Perché lui era ansioso e mi ha chiesto come va. Io dopo che dico di sì alle registrazioni, tendenzialmente è sì. Quindi comunque questo serva Simone, questo serva di lezione come monitor per le nuove generazioni, ecco. A parte questo, direi di passare i nostri riferimenti, ovvero www.dietrologiavideoludica.it. su Facebook ci trovate come Dietrologia Videoludica e su Twitter Dietrologia Videoludo. Posta elettronica che penso che non venga mai utilizzata, ma visto che alla fine vengono utilizzati i commenti e quant'altro nel sito, e comunque dietrologia videoludica @gmail.com per chi vuole, è pronta lì. Allora, certo che io questa cosa di dietrologia videoludo non l'ho mai capita. Perché posso svelare l'arcano, quando sono andato a registrare l'account Twitter, dietrologia videoludica era troppo lunga. Era troppo lunga. E quindi ho detto videoludo perché, sai, la parola similatina, eccetera, eccetera. Ho detto, beh, il senso ce l'ha, ci siamo capiti. Ma era Pizzi che si incartava ogni volta. Sì, non so che problemi abbia Pizzi con dietrologia videoludica. Si incarta pure sui nomi quando li dobbiamo citare. Sì, è come si vede che è un genitore, perché come tutti i veri genitori sbaglia il nome, chiama un fratello con l'altro col nome di quello, del gatto, del cane, insomma. Sì, è normale. Sì, esattamente così. Quindi ricordiamo che appunto il sottoscritto, oltre su DVL, lo potete trovare anche su retrocast.it. oltre che su Dietrologia Videoludica, quando non perde gli articoli salvati e quant'altro. E su Retrocast, sì, www.retrocast.it. Simone invece lo potete trovare su Free Playing ogni martedì in diretta su il canale www.freeplay, sul canale, sul sito www.freeplaying.it, con la nostra chat vintage su IRC per commentare in diretta la puntata, e su tutto lo shelter, the indie shelter, the game shelter, the movie shelter, the tune shelter, che poi sarebbe quello che gestisco io, quindi quello che zoppica di più sicuramente. E questa parte la tagli. E e poi su Dietrologia Ludica insieme a voi.it, sui progetti di IPN che non si sa mai come vanno. Va bene, però vanno meglio. Bene o meglio. Bene o meglio. Nel senso, esatto. Siamo pieni di novità, pieni di... Ci escono dalle narici. Esatto. E per ultimo, ma non ultimo, anche Cristiano, noi ti potiamo recuperare su... Ah, quindi parte così lo spammone subito. Vai, spam. Bellissimo. Sì. Questo podcast fa proprio per me. No, allora io... No, a parte Calavera Caffè, che è il nostro podcast sulle avventure grafiche, abbiamo citato prima, quindi insomma, se non l'avete ascoltato e siete appassionati di avventure potete ascoltarlo. Io ho un sitarello mio, si chiama New Pix Corner, genitivo sassone, che, in cui parlo di soprattutto di avventure anche lì, perché sono monotematico e estremamente noioso, quindi... Stavateci un salto e niente, questo. Ah, poi sono, vabbè, uno staffista di Adventures Planet, anche se ormai non trovate quasi più niente di mio da quelle parti là. Vabbè, ma questo non è male. Sono dietro le quinte, esatto, diciamo. Allora, io a questo punto mi do da solo il là per fare lo stacco alla lettura centrale, il mio solito esercizio quasi mensile di lettura, per vedere se sono migliorato nell'uso dell'italiano, se la dislessia mi colpirà anche questa volta. Abbiamo un giudice esterno oggi. Sì, c'è un giudice esterno, quindi sono, insomma, felice di ricevere un parere non filtrato dal fatto che ci conosciamo. Confido che Simone, ecco, chiederò prima il parere al giudice esterno e poi a Simone, in modo che, certo, lui possa bilanciare il voto. Bene. Ecco. Bene, quindi inizio a leggere, per fortuna la cosa è abbastanza corta, dovrei quindi riuscirci, vediamo un po'. La definizione di indie è un concetto controverso che sta affrontando un'evoluzione particolare. Quando un gioco può essere definito indie? Ha senso per EA proporre un bundle indie, vedi l'offerta su Steam? Alcuni, come ad esempio Notch, chiamano EA semplicemente sciacalli. Ma la scintilla di originalità è veramente propria solo di chi è indipendente o solo di chi è un publisher? Viaggio alla scoperta dell'evoluzione del mondo indie. L'intento di questo episodio di Dietrologia Videoludica è quello di vedere nel mondo dei videogiochi indie un punto di vista dell'insider, di chi ci sta dentro, unito alla visione degli esterni che noi possiamo darvi, possiamo avere. Finito. Allora, io faccio delle note a margine. Questo, chiunque abbia scritto questa cosa deve morire. Allora, perché era scritta in una maniera... cioè... Poi vedevo che cambiavo, diceva adesso si catta, adesso si catta. No, ecco, cioè io ho dovuto salvare perché ho detto, ho letto sino a un certo punto e sino a un certo punto... Ho letto in anticipo sino a un certo punto, e sino a un certo punto era scritto in maniera comprensibile. Poi inizia a delirare, e quindi tutte le mie pause sono stati degli aggiustamenti fatti mentre leggevo. Lo sai, quindi, che forse qualche cosa l'avevo toccato, scritto io, però secondo essere. Me chi ha mischiato tutto non sono io. il padre padrone, diciamo. Il PPP. Esatto. Penne, pomodoro e pancetta. E pizzi, esatto. Quindi, allora, io quindi credo a Cristiano un voto, considerando delle note a margine che ho aggiunto alla fine. Sì, sincero, sì, spietato. No, vabbè, qui bisogna considerare anche il coefficiente di difficoltà, che era particolarmente elevato, come abbiamo detto, che il testo era scritto male, per cui questo va notato. E poi c'è anche la volontà, secondo me, del lettore di rendere credibile una cadenza sardo-elvetica, che è un po' un mix, se non erro, abbastanza originale. Quindi per me è 8 più, va? Bene. Mi è andata bene. Simone? Ho detto Pizzi, manda un messaggio dicendo di che vi amo tutti, quindi io penso che cade a fagiolo per giudicare la tua lettura. Pizzi, dopo che le ho detto peste e corna su come aveva scritto. Esatto, capisci che meraviglia. Comunque, beh, no, forse addirittura ci raggiungeva, diceva, quindi ecco. Che ne sai? Boh, di un campo di grano a poco, comunque. E quindi no, un voto, Simone? 8. Oh, bene, media dell'8, a posto. Posso smettere di studiare, allora. Per i prossimi 3 mesi. Sì, mi è andata bene, la gente era brava, grazie, sono soddisfatto. Solitamente mi prendono più a pesci in faccia e non mi avrebbero perdonato il fatto che loro stessi hanno sbagliato scrivendo, quindi figurati. Comunque, colpa anche mia che forse avrei dovuto darci una sistemata prima, ma... Invece di dormire. Invece di dormire, esatto. Scemo io che cerco di riposarmi un'ora dopo il lavoro, guarda. Dannazione. Voi svizzeri non cadete in queste trappole, però. Sì, ma, lo so, ma il problema è che io non sono svizzero, quindi. Cioè, è quella la cosa che mi frega, forse. Ho bisogno di dormire le mie 10 ore a notte, quindi. Vabbè, ma ormai è un anno, quant'è? Un anno? A settembre un anno. Capisci? Ormai. Che cavolo. Vabbè, che cazzo vuol dire? Io però. Sono terrone dentro, quindi. Cioè, ma continuo a mangiare alle 2 del pomeriggio e alle 11 di sera senza problemi, quindi. Andiamo avanti così. Ma direi di iniziare col primo punto. Sì. Sì, sì. Direi proprio di sì. Simone, prego. Allora, noi volevamo fare attraverso una. Diciamo. Una piccola intervista o comunque una conversazione con il nostro ospite, una fotografia sul mondo indie attuale, su come si è sviluppato e sull'eventuale futuro. Abbiamo pensato di, tramite una chiacchierata con il nostro ospite, di ricreare un po' la situazione del mondo indie, sia la nascita, quando si può vedere un'effettiva partenza e una fotografia, poi fare una fotografia su quello che è oggi il mondo indie e come è entrato a far parte della vita di ogni giocatore, perché prima era una cosa magari di nicchia, adesso è diventata una cosa più... espansa. E quindi dicevamo, attraverso questa chiacchierata con il nostro ospite, fare tutta questa panoramica di situazioni, cioè questa panoramica è la prima stavo cercando di raccogliere le idee per introdurre ai punti. Diciamo che sono state fatte delle domande, appunto, domande slash punti, dove vengono fatte poste delle questioni, tipo: creatività e originalità sono veramente solo ad appannaggio in modo determinante e potente del mondo indie? Cioè, quello che qui si può rappresentare è: tu vedi nel tu e anche noi, insomma, diciamo, si vede nel mondo indie un effettivo sviluppo di tutte quelle meccaniche, gameplay, IP che non trovano più spazio nel mercato mainstream, dato il costo, dato l'impegno che ci vuole, l'investimento di forze e di team di sviluppo che di solito prendono questi, cioè chiedono queste produzioni a AAA? Ma io penso, innanzitutto, è veramente difficile riuscire a capire oggi che significa indipendenti, perché cioè, in questi ultimi anni sta cominciando a significare tutto o niente, no? Quindi è un po' difficile capire, però sicuramente, anche come accade pure nel cinema eccetera, una cosa che può sicuramente dare un punto distintivo agli indie è il fatto che ci siano poche persone, generalmente un solo autore o comunque una mente che su tutti, diciamo, dà questa impronta autoriale. Quindi quando c'è un'impronta autoriale, molto probabilmente la componente creativa è un poco più elevata, c'è più originalità, c'è più voglia di sperimentare, più c'è un progetto personale, automaticamente anche più distintivo, no? Però non penso che sia solo ad appannaggio degli indie, cioè dipende molto dall'intelligenza della produzione, no? Quindi, cioè, se un produttore... Io pensavo che magari ci sia anche, però ci deve essere anche l'occhio lungo, diciamo, del produttore, appunto, sì, direttamente sì, del sì. Publisher, perché comunque l'occhio lungo può essere un'arma a doppio taglio, triplo, quadruplo anche. Cioè, tu dici perché l'occhio lungo può portare a una cosa magari stracommerciale, perché ci ha visto un donna. No, ma può portare una cosa stra, non so, stra criptica, stra introversa, comunque molto distante da quello che poi è il gusto del pubblico. Potrebbe, capito? Un esempio che mi può venire in mente al volo adesso non ce l'ho. Stefano. Boh, cioè in che senso? Spiegati senso meglio. Journey sì. Comunque è stato un azzardo, per quanto non sia ufficialmente indie, è stato un azzardo. Un gioco dove non si spara, un gioco dove non si comunica, multiplayer fatto in questa maniera. Cioè, Sony ci ha avuto un po' anche le palle di buttarsi nel vuoto. È ovvio che è un investimento minore, ovviamente. Però insomma, quello intendo io. Cioè, fai Journey del caso, i giorni del momento, del caso appunto, e qualcuno te lo valuta per quello che è, e qualcuno invece dice che è sta cagata, ci avete provato, cioè, come Fontana, no? Cioè, quel tipo di misunderstanding che si può creare. Tu dici che quello non può essere, può essere un pericolo, insomma? Ma diciamo che io penso che un gioco come Journey sia nato anche un pochino pure sull'onda di questa moda degli indipendenti, appunto perché molti dicono che non è indipendente Journey, quindi secondo me è veramente cruciale capire che cosa intendiamo noi, perché adesso si stanno buttando anche queste case un po' più grosse a fare prodotti che dicono che sono indipendenti, però poi bisogna dire in che modo lo sono, no? Cioè, se magari per il budget più basso, per il team ridotto, per non so, per l'autorealità, per il tipo di sperimentazione, non lo so. Cioè, io quello che noto più che altro è che manca forse un po' la via di mezzo fra il gioco, sai, fatto per le masse, comunque commerciale, il gioco più autoriale. Cioè, questa mi sembra una cosa che ho anche detto nel podcast nostro. Cioè, manca un po' la percezione del pubblico di accettare più le vie di mezzo. Quindi un gioco come Journey forse viene venduto come indie, quando invece magari non è più una via di mezzo. Quindi sì, questo diciamo che poi è un punto che si mischia forse anche ad altre domande, no? Che ci abbiamo qui, diciamo, in serbo per te. Però diciamo, già da qua si potrebbe sviluppare una bella discussione, perché io ascoltavo anche il podcast Il Tentacolo Viola, dove c'era un, ovviamente mi perdonerà, un redattore di Game Smash, il cinese, detto, purtroppo non ricordo il nome e cognome esatto, ma è uno dei redattori storici. Fa una figuraccia, ma adesso al momento non ricordo. Vabbè, che c'era. Parlava da dividere indie da indipendenti, cioè che comunque anche all'interno di quel mondo c'è, appunto, come dicevi tu, c'è quello che il classico garage del cazzo dove sono usciti tutti a sviluppare, oppure la produzione un po' più acchittata, un po' come adesso può essere The Witness di Jonathan Blow, quello che può essere stato Braid e compagnia bella. Anzi, forse Braid si è fatto veramente nel garage, quindi prima di dire stupidaggini. Sì, esatto. E quindi già questa è una bella differenziazione che porta poi a una divisione del mercato effettiva. Tanto che, per esempio, nell'Xbox Live c'erano gli arcade, che erano alcuni indie anche, e poi c'erano X-Blig, che erano proprio quelli effettivamente fatti con i piedi, per dire, insomma, per dirla male. Le brutti. Quelli, sì, diciamo brutti, però magari poi là la perla ci stava, era una perla interessante, così, non lo so. Comunque io andrei avanti, se Stefano non c'ha altro da, se non c'ha qualcosa da aggiungere. No, direi che possiamo Cristiano. Avanzarci. Ok, allora io direi, possiamo dare un punto di inizio alla parola indie, al mercato indie come poi è oggi, e si può far coincidere questo, mi sta facendo diventare epilettico Stefano, cambio di colore. Adesso ho sistemato tutto, tranquillo, è una crisi passeggera, adesso okay. Ti passa. Aspetta, asciugo la schiumetta. Sì, esatto. Allora, dico, si può far coincidere con la partenza, diciamo, del mercato indie come lo conosciamo oggi con l'uscita di Minecraft? Questo lo domando sempre a tutte e due. Io la farei coincidere con quello, o Braid, che onestamente vengo impreparato, lo dico. Non so se sono contemporanei, però Minecraft è quello che ha fatto il botto più grosso, diciamo. Ma allora, ne stavamo appunto parlando poco prima di registrare con Cristiano, infatti. Braid è leggermente più recente, più vecchio di Minecraft, non di tanto. Io direi che con Braid forse si può inaugurare l'inizio del mondo indie moderno. Nel senso, quel tipo di indie che comunque vende tanto, anche se è stato creato con dei metodi, insomma, con delle tecniche spartane, tra virgolette, nel senso che è stato appunto creato da una sola persona che ha chiesto la collaborazione di pochi elementi e poi ha avuto un successo galattico, ecco. Idem Minecraft, dove appunto c'era il piccolo Notch, quasi da solo, diciamo. Lui è il suo cappello. Lui è il suo simpatico cappello. con Mojang, che non so al tempo cosa saranno state, una persona, tre persone, non mi ricordo adesso. Quindi pochissima gente, tirato fuori un titolo che gli ha fatto valere milioni di dollari. E questa cosa qua poi si è ripetuta anche con esempi come Super Meat Boy o Fez, forse in una misura un po' inferiore, comunque cose che hanno... Fez genera odio fondamentalmente. Sì, sì, sì. Per l'autore. Esatto. Anche se io lo adoro come personaggio, magari come persona sarà uno stronzo, però come personaggio, anzi, consigliamo, già che ci siamo, la visione di Indie Game The Movie. Ma di quello ne parliamo dopo. C'è un punto più là, mi sembra. Sì, però. Insomma, diciamo, già con l'occasione, visto che stiamo girando intorno ai principali che sono stati poi immortalati nel film, quindi insomma. Ecco, che secondo me, esatto, sono quelli che hanno creato nell'epoca moderna, diciamo in quella contemporanea, un nuovo filone di indie. Una nuova visione, ecco, dell'indie più che un nuovo filone, perché le cose sono state create in una certa maniera e hanno avuto una risposta del pubblico enorme rispetto a quella che magari poteva essere aspettata, cioè, che potevano aspettarsi in certi casi, anche se c'è da dire che forse già loro erano più, tolto Braid forse, che magari non si aspettava tutto quel successo, ma gli altri mi sembrava che, avendo già degli accordi con le major, potevano già disporre di una visibilità molto superiore rispetto ad altri giochi, ecco. Cioè, è chiaro che se esci dall'Xbox Live Arcade in copertina, di sicuro non è che ti aspetti 100 download il primo giorno. Ma poi proprio in quel giorno ti stanno riprendendo per un film. Insomma, cioè, sei già, secondo me parti già un po' avvantaggiato, tra virgolette, ecco. Sì. Quindi vogliamo magari passare a parlare del film subito? No, parliamo dopo. Per io me, chiederei cosa ne pensa Cristiano, ad esempio. Sì, in effetti il film fotografa proprio questo, che cioè l'erano già in qualche modo inseriti, credo, in Xbox Live, vorrei sbagliarmi, no? Sì. Sì, ma in effetti è giusto quello che dice Stefano sulla concezione moderna, perché pure io identifico Braid come l'iniziatore, diciamo, di questa nuova ondata, anche un pochettino di moda, lo dico un po' di così, in senso critico, degli indipendenti. Chiaramente non è colpa di Braid, anzi, è più che altro il modo in cui poi hanno gestito la cosa dopo, fra produzioni e hype, insomma, anche il pubblico ha comunque il suo, secondo me, una parte di colpa in questa onda dilagante, diciamo. Però no, sì, gli indipendenti poi ci sono sempre stati, no? Io per esempio, dato che sono anche un pochino più esperto del mondo adventure, no? L'altro giorno notavo che un gioco come Darkfall, che è stato uno dei primi giochi indipendenti adventure a essere notato anche al di fuori della nostra cerchia, diciamo, è addirittura del 2004, anche se in Italia è uscito un po' dopo, credo addirittura un paio d'anni dopo. Comunque è del 2004, che videoludicamente parlando è un'altra epoca proprio, se 10 vogliamo, anni, no? sono quasi due generazioni. Cioè, se Braid è uscito, se è uscito nel 2008-2009, comunque parliamo di 4 anni comunque cruciali, perché se vogliamo non è che Darkfall se lo ricordano come l'iniziatore di qualcosa, no? Cioè è stato più appunto Minecraft o Braid, quelli che poi sono seguiti dopo, no? Quindi sì, sicuramente ci sono dei giochi più rappresentativi che hanno poi formato un filone, anche se andiamo più indietro, cioè se vogliamo anche i giochi che venivano fatti anche negli anni 90, negli anni 80 erano fatti da 2-3 persone. Per Ma cui infatti questo era poi, diciamo, sarei voluto subentrare in questo su questo punto proprio, visto che tu sei pure più esperto magari nell'ambito proprio delle avventure, ma magari te lo ricordi anche per una cosa anagrafica e più di noi, c'è appunto nel passato, tu vedi qualcuno che possa rappresentare, diciamo, il modello indie anche prima, o erano tutti così, come cioè, ti ho interrotto, alla fine stavi dicendo quello. Insomma, no, vabbè, no, hai fatto bene, perché così riorganizzo la domanda. È appunto quali sono gli indie, i giochi indie del passato. Io poi farò. Citerò Simone Pizzi, che aveva già scritto un intervento, che però non c'è, quindi ne approfitto. Per... Ah, bene, no, perché così. Ah, ok, allora completiamo. Faccio il Pizzi della situazione. Lui dice che se per passato intendiamo gli anni 80-90, lui sostiene che quasi tutti i giochi sono indipendenti per una serie di ragioni. Dice che non c'erano veri e propri produttori e ogni programmatore sfogava la propria creatività creando una miriade di giochi con gameplay differenti, e che oggi non è così, quasi nemmeno nel mondo indie. Una affermazione questa di Simone Pizzi che condivido in parte, perché i produttori c'erano sicuramente, sia i produttori, cioè gli sviluppatori, che i giocatori, non c'erano i soldi stessi. Esatto, non avevano potere d'acquisto, ecco, cioè non erano non c'era il valore, il giro di soldi che c'è adesso, quindi chiaramente si parlava di realtà più piccole, non avevi necessità anche per la tipologia di giochi di team di molte persone, anche per creare giochi famosissimi, ecco. Cioè, un team grande poteva essere quello della LucasArts, ad esempio, o della Lucas Game Film, che alla fine cos'erano? 5 persone? 6 persone? Insomma. Sì, erano, più o meno giravano sempre gli stessi nomi. Cioè, quello era il team della Lucas, quindi non è che parli di una casa di produzione minore al tempo. Oppure se prendi la Ubisoft negli anni 80-90 aveva una sede e la prendi adesso, ne ha in tutto il mondo, ecco. È chiaro che c'erano altri soldi e quindi forse non tutti, cioè i giochi non è che ci fossero quelli indipendenti e quelli non indipendenti, forse c'erano quelli di più successo e di minor successo, ecco. Però forse non si poteva parlare proprio di gioco indipendente perché non c'era il concetto forse di... Cioè non c'era divisione tra la casa indipendente e quella non indipendente, perché erano tutte tendenzialmente abbastanza piccole, tolti gli esempi grandi, tra virgolette, che però ad oggi risultano piccoli, risultano case piccole. Ecco, più o meno penso di aver esposto il mio e il suo pensiero. Cristiano, appunto, adesso ti abbiamo interrotto, ma prosegui pure. No, io sì, in effetti qui è appunto, cioè penso che gireremo sempre attorno al problema sull'identificare cos'è indie e cosa non lo è, perché anche in questo caso, per esempio, cioè ci sono giochi molto molto famosi, molto grossi, tanto per dire qualcuno, Prince o Persia, il primo quello lì di Jordan Mechner. Sì. Oppure mi sembrano i due francesi, non riesco a pronunciarli. Comunque Eric Chahi, quello di Another World, Flashback, insomma, sì. Flashback, sì, sì. No, forse Flashback, oddio, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che Flashback non sia suo, è da Delfin sempre, però Non era non è lo stesso adesso mi hai messo urge subito, no, perché c'è sempre stato questo, io me ne tiro questo fuori problema. Sbattendo la aspetta vola vola, bisogna vederlo, perché infatti era Paul Cuisset, che era una delle menti della Delfin, no? Okay. È ispirato comunque a Another World, ma quelli erano fatti da 2-3 persone, anche Alone in the Dark, tanto per dire un altro francese così. Sono incasinato. Ok, niente, adesso ho capito. Va bene, l'errore. Cioè, come fai a dire? Io non vorrei dire una castroneria, però forse in passato il discorso era più che altro che un ragazzo faceva questo gioco nel garage famoso e poi dopo cercava chi lo poteva distribuire, cioè non erano cose su commissioni. Mentre invece, per dire l'esempio Lucas, invece erano più organizzati come un'azienda, quindi diceva adesso dobbiamo fare questo gioco, magari hai creatività assoluta, cioè non hai nessun vincolo eccetera, però noi comunque siamo un'azienda, in questo momento dobbiamo fare questo gioco. Mentre invece forse con giochi come Karateka, questi qua erano proprio fatti, nati da un'ispirazione e poi dopo bisognava sbattersi per vedere come venderlo più che altro. Quindi forse il genere indipendente del passato può essere identificato così, non lo so. Beh, però c'ha un suo fascino e E onestamente c'è pure delle similitudini con oggi, secondo me, per quello che riguarda le cose più piccole, appunto, più intimiste, sì. Più dove magari oggi, come Papo e io, c'è la possibilità pure di spiegare poi uno stato d'animo magari del game designer, perché per esempio in Papo e io so che il game designer ci ha avuto, cioè lì rappresenta i problemi che ha avuto col padre alcolizzato, insomma ci sono tutte delle poetiche dietro che sicuramente arricchiscono per chi poi c'ha un po' più di l'occhio lungo o ha un po' più di predisposizione a leggere l'opera oltre che a giocarla e basta, per dire. Quindi quello può essere una cosa che magari anche prima c'era e quindi si ricollega anche in questo, e prima di arrivare poi al momento culmine, clou, dove invece ci sono grosse produzioni ben chiuse in camere stagne e pensate in una certa maniera per vendere, per sostentarsi, tanto da creare un mercato che è più grosso del cinema nel 2013, quindi. E quindi questa è un'altra domanda che onestamente forse per quello che fai tu è poco inerente, però magari, che ne so, vedendo un po' la situazione e possiamo anche provarci a provare a risponderci noi, Stefano. Responditi tu, Minecraft... cosa vuoi da me? No? Sì, dico, oltre, nel senso, ritornando sempre ai pilastri grossi, o comunque quelli che hanno poi lanciato tutto, rimanendo su questi, Minecraft, Braid e Super Meat Boy, voi pensate che in qualche maniera abbiano potuto influenzare, o qualcuno che magari, ecco, nell'ambito delle avventure è uscito prima, Cristiano, visto che è il tuo campo... Vabbè, sì, i giochi della Wadget Eye, no? Dei Gilbert, Blackwell, questa roba qui. Sì. Ok, c'è un sempre per dare un inizio, anche un modo di pensare il design e di sviluppare il design in una maniera diversa. Post Minecraft Braid e Super Meat Boy, per quello che riguarda questi qua e quelli che dici tu. Ma secondo me l'abbiamo anche addirittura sfiorato prima il discorso, perché secondo me non solo hanno influenzato il design, ma hanno anche influenzato il modo, che forse intendevi dire proprio questo, cioè il modo di fruirne proprio il pubblico, cioè sa che ha di fronte un indipendente e allora magari ne fruisce in modo diverso, ha delle, come dire, alza dei paletti, ne abbatte alcuni, cioè il tipo di fruizione è proprio diversa, e questa è una cosa che è nata perché è stato generato un filone, no? Quindi mo per esempio Darkfall forse appunto non è che ha generato, che da Darkfall in poi hanno cominciato a fare giochi come Darkfall, ci sono stati titoli stile Darkfall, però sicuramente in campo adventure il prodotto distintivo indipendente è quello stile Wadget Eye, quello lì con i pixeloni, con grafica retro, che poi in realtà come design non è affatto retro, cioè perché comunque il game design è abbastanza moderno, è più semplice, poche location, durata limitata, no? Poi comunque ci sono questo sistema di indizi che puoi combinare, gli oggetti invece si combinano poco, e poi questo, l'autore che un pochino ha realizzato i primi giochi come The Shiva oppure Blackwell Legacy, ha poi aperto, cioè ha quindi fondato questa etichetta, questa casa di produzione a cui poi si sono attaccati anche altri autori, hanno cominciato a fare giochi di questo tipo qui, quindi tipo Resonance o Gemini Rue, che non sono di Dave Gilbert ma comunque rispecchiano quel tipo di game design, di estetica, soprattutto quell'universo lì, e adesso non hanno più timore di mostrare una grafica di quel tipo, che magari non so, forse 10 anni fa sarebbe un tributo a alle vecchie, sì. Facciamo partire la scimmietta pure qua a quel mondo della luce, Monkey Island, diciamolo, ecco, insomma, una scimmietta pure. No vabbè, sì, certo che anche questo ha creato una situazione anche un pochino di comodo alla lunga, perché poi il problema secondo me degli indipendenti famosi è questo, che purtroppo creano dei filoni che si adagiano un po' troppo, no? Quindi per esempio questa grafica retro è stata un po' la scappatoia di alcuni giochi che il fruitore, il pubblico ha pensato così, si è trovato di fronte al gioco, ha detto ah vabbè, indipendente, quindi per essere indipendente la grafica è bella anche se è retro, no? Cioè quando poi magari in effetti quel tipo di grafica è stata fatta così perché non c'era altra scelta o perché volevano risparmiare su qualcosa, sulle animazioni, perché cioè considera per esempio un gioco come Gemini Rue ha una risoluzione di quanto, 320, e cioè onestamente guardare una cosa del genere nel 2010 è un po' strano. Il gioco è invece poi molto bello, cioè quindi non è una dice vabbè, ho visto la risoluzione è bassa, il gioco è brutto, no, però è difficile riuscire a guardare le cose che contano veramente negli indipendenti, perché tu sei un pochino hai dei pregiudizi in positivo soprattutto verso la grafica che deve essere in un certo modo, il design che deve essere in un certo modo, quindi ti trovi di fronte a un indie e dici vabbè, io so che è un indipendente e quindi lo valuto così. Invece secondo me bisognerebbe guardarlo per quello che è, ecco. Quindi secondo me hanno influenzato forse un pochino troppo questi giochi qui, i giochi che poi hanno seguito. Secondo me dovrebbero non so, comunque cioè io, a me non piacciono i filoni, ecco, cioè, a un certo punto mi stanco, insomma. Io sono d'accordo con te, e proprio però riguardo quei tre titoli, diciamo che poi Minecraft ha generato almeno il più, quello mi viene in mente subito è Terraria, sì, che è esattamente la stessa cosa, solo brutta, anche se vabbè, io ho tutta una teoria su Minecraft e Notch, però se lo dico, cioè, diciamo che non mi stanno simpatici nessuno dei due. Diciamo che Braid ha generato questa esplosione di, secondo me, io la vedo così, Minecraft, vabbè, tutti i cloni vari 2D, 3D, mezzo D, foto, ok. Braid ha generato il filone dei platform che ormai si mettono a fare tutti i platform, solo che, anche perché si ricordano tutti l'idraulico, però nessuno li sa fare a parte Braid, oppure le conversioni, addirittura fanno conversione di giochi che esatto questo spazio qui, oppure Braid che per esempio, cioè nel senso invece che capire che Braid magari è più un puzzle game che non puramente un platform e basta, e che comunque c'ha delle cose che vanno un po' oltre, quindi sono messi a fare tutti questi platform mezzi con la fisica oppure platform alike, anche se c'è pure www che invece è un'altra cosa, che è proprio il delirio, e Super Meat Boy che appunto con www, che non so se prima o dopo, ma non è importante, hanno inaugurato tutto invece quello degli hardcore, il vero hardcore, il gioco hardcore pesante, difficile, trial and error. Quindi hanno usato tre idee che secondo me si sono, almeno in quel periodo, poi magari si sono sviluppate, però in quel periodo sono state in qualche maniera rivoluzionaria, e hanno secondo me segnato molto, anche Fez stesso, anche se in un'altra maniera sono stati comunque, poi parliamo di quelli più proprio più grossi, poi se uno va a scavare ce ne stanno, non lo so, 10.000, 2.000, perché poi come dici tu ognuno si sente in diritto, che poi forse è un po' anche giusto finché non rompi i coglioni. Sì, sì, no, infatti no, infatti non vorrei che essere, cioè diciamo, aver detto una cosa poco chiara, cioè non è che adesso ispirarsi a Super Meat Boy è sbagliato, cioè non dicevo questo, dicevo no, però è che 40, fare troppo, magari farlo anche male, magari dopo un po' ti stanchi e capisci che è soltanto una cosa di comodo, no? Per esatto, replicare, perché poi ognuno deve fare, facciamo la citazione a Bertolucci come Ren Boris, facciamo tutti la citazione a Braid, facciamo tutti la citazione, sì vabbè, tutto bello, tutto carino, bella brasserie, come diceva, no? Marchese. E quindi comunque Stefano, invece hai qualcosa da aggiungere? No, appunto, anche io non sono particolarmente favorevole ai filoni, diciamo, al fatto che uscito un indie, se ha successo tutti devono copiare quell'indie. La questione appunto Terraria, Minecraft, a me non è mai piaciuta più di tanto. Per inciso, io sono un giocatore, come appunto precedentemente detto con Cristiano, come dire, gioco agli indie mainstream tra virgolette, nel senso che quelli che magari vengono un po' pubblicizzati, allora lo vengo a sapere. Io non è che seguo la scena in maniera pedissequa, ma quelli che vengono un po' pubblicizzati, li gioco e non tutti mi piacciono. Ad esempio Braid a me non è piaciuto, Super Meat Boy sì, ma insomma dopo un po' ma non l'ho finito ma vabbè, esatto. Quello è perché sono scarso io. Minecraft appunto provato dalla beta e abbandonato dopo un po' di tempo per mancanza di fine. Mi mancava la motivazione per andare avanti. Io sono come, gioco. Su questo sono come te. Se non c'ho anche gli endless su cellulare, io non riesco. Mm. Non cioè, riesco, sono fini a se stessi. Io faccio tutti gli obiettivi, magari, e poi lo mollo. Cioè, devo avere un obiettivo nel gioco, devo avere una quest, una missione, un motivo che non sia la sola sopravvivenza. Per inciso, personalmente ho un'enorme considerazione di Minecraft. Sì, anche. Di Minecraft e di no, c'è cioè così quel simpatico panzone e così via. Ad esempio di Gemini Ru mi è piaciuto tantissimo, consigliato da amici, contattato il creatore per farne una traduzione in italiano che poi ne parleremo dopo. Insomma, questo e altri giochi, Captain Brave, è vero. Di cui ho parlato anche in retrocast, punti e clic a vari. Ecco, io se c'è un indie meritevole non mi interessa. O anche, ecco, l'Humble Android Bundle io lo compro ogni volta che esce praticamente. Se hai iOS. E gli do anche ben $10 ogni volta, invece che 4 o 5. Perché? Perché comunque sono giochi indipendenti, ma in quei 7 ne trovo sempre almeno 4-5 che a me piacciono molto, per i quali penso di aver pagato anche troppo poco, diciamo, ecco. Indipendentemente dalla grafica, faccio l'esempio di Organ Trails per cellulare, che è un gioco che la grafica dell'Atari, praticamente dell'Atari 2006, o quello che è, no, dell'Atari G-Bow, no, insomma. Grafica Atari con 16 colori neanche, ma è un gioco che ha una profondità e un'idea dietro migliore di tanti, non lo so, di un Army of Two, ecco. Cioè, vabbè, Army of Two pure, vabbè. No, ecco, Army of Two è un giochino divertente da giocare con gli amici, ma non è quel gioco che dico, adesso mi prendo 2 giorni di ferie perché devo dedicarmi a questo, ecco. Beh, insomma. Cioè, non è Half-Life 2, non è quello. Quindi ecco, sicuramente poi tornando al punto iniziale, questi giochi qui hanno influenzato il design, nel senso che hanno dato una direzione e anche una speranza forse al fatto che chiunque... Dignità, dai, hanno dato dignità. Gli hanno dato un nome e li fanno vivere come delle signore, ecco, una dignità di donna. Esatto. No, ma sai, infatti, se posso, scusa se prego, mi sento prego, un prego. Po' un attimo, mi viene in mente il fatto che ci sono titoli molto interessanti che prendono delle idee da questi tre giochi e che magari sono interessanti per altre ragioni e non per questo. No, per esempio mi viene in mente quel gioco che si chiama Winterbottom, adesso non ricordo tutto per intero, The Adventures of Winterbottom, che praticamente prende il concept di un livello di Braid, solo uno, e che ci fa un gioco intero, no? Allora, detto così sembra una stupidaggine, cioè magari il game design è pure buono, eccetera, però perché questo gioco può essere interessante? Non per questa ragione, che è praticamente plagiata miseramente da Braid, ma perché ha una componente artistica, grafica particolare, no? Cioè questo uso del bianco e nero, eccetera. Sì, Leighton, quel mondo lì. Esatto, oppure anche un gioco come Limbo, no? Se vogliamo, anche quello dal punto di vista grafico era più interessante rispetto, secondo me, al resto, perché poi insomma sono sempre i soliti enigmi con la fisica, cioè. Però secondo me una delle cose che ha fatto scuola, su cui ha fatto scuola moltissimo Braid, questa cosa ogni volta la devo dire perché quando c'ho occasione perché mi resta qua, è il fatto che Braid inconsapevolmente probabilmente ha tirato fuori, come dire, la l'autorialità da chiunque. Cioè adesso tutti quanti vogliono fare giochi in cui non si capisce niente. Cioè questo che dico, pure, anche Limbo l'abbiamo appena citato. Cioè Limbo è un gioco molto, molto bello, molto interessante, però poi dopo a un certo punto qualcuno ha deciso che vuole essere criptico, che vuole essere autore, e non si capisce più niente. Ma io dico, perché? Cioè, sì, ecco, diciamo ai nostri amici sviluppatori indie, il gioco perché sia bello non è detto che non ci si debba capire un cazzo. No, ma infatti, ecco, cioè, per esempio abbiamo citato Gemini Rue, no? Per esempio, mm-hmm, che ti ripeto, io non sono quello che, uno di quelli che dice ah però che bella grafica retro. La grafica è anche buona in quel gioco perché c'è quell'atmosfera noir, la pioggia eccetera, mm-hmm, eccetera, però secondo me il gioco è essere veramente valido lì, e quello è uno dei giochi che rifugge dall'idea della sceneggiatura criptica, sì, a tutti sì, i costi, sì, perché sì, è una sceneggiatura molto molto molto efficace, molto curata e anche diciamo fra virgolette tradizionale, sì, è lineare, cioè tu segui una storia che va da un punto A a un punto B, sì, ci sono dei misteri, dei colpi di scena, cioè però è tutto molto onesto diciamo, non è che a un certo punto qualcuno ha deciso vabbè adesso mettiamo un sussurro, una cosa, e poi lasciamo che il pubblico interpreti, perché poi il pubblico con questa scappatoia del il pubblico interpreta è troppo facile, cioè non è come la famosa drottola di Inception, esatto, è proprio quello. Braid è così, cioè Braid ha voluto inserire una trama in un gioco in cui forse non era necessaria la trama, perché io per esempio Braid questa cosa non sono riuscito a dirla a Calavera, voglio dire qui. Braid ha un ultimo livello, non so se Simone se lo ricorda, l'ultimo livello in cui c'è diciamo questa principessa. Sì, non diciamo. Vabbè, spoiler, okay. Allora, spoiler. Vabbè, ma okay, lo devo finire ancora, quindi... Ah, lo devi finire? Vabbè. Sì, sì. No, scusa, ok. Vabbè, non ho spoilerato. Comunque, c'è il livello finale che ha un twist di tipo proprio narrativo che è so veramente che, bello. Meno male so che succede, qualcosa succede, so che, però non mi di tutto, ma... No, c'è proprio un colpo di scena perfettamente integrato al concept di gioco, sai, al riavvolgimento, queste cose qui, no? Cioè che è molto efficace a livello narrativo, e secondo me se si fermava lì era meglio. Poi invece però ha deciso di mettere i libricini, la metafora e questo e quell'altro, e poi qualcuno ha detto ma che vuol dire tutto questo? E Jonathan Blow ha detto vabbè, il pubblico deve interpretare, e vabbè. E da lì in poi hanno tutti... Cioè, beh, lui già che non ha qualche persona a pezzi in freezer, già dobbiamo ringraziare. Perché l'aria non è esattamente rassicurante. No, infatti lui ha subito tirato fuori l'immancabile David Lynch come ispirazione. Allora, tutti quanti dicono mi sono rifatto a David Lynch, ho capito, però non è che adesso quando fai una cosa non si capisce sei David Lynch, cioè, meglio se ti quindi... sei fatto David Lynch è meglio. Però no, io sono d'accordo, però dall'altra parte se il prodotto poi in sé per sé è valido... Sì, ma certo, cioè, normale. È proprio quello che dicevo, se ti ci devi mettere e cominciare a ragionare su tutto questo tipo di sovrastrutture, quindi cosa avrà voluto dire, per fare un'altra citazione, qual era l'intento, cioè... A meno che non sia veramente una cosa, una novel o una graphic novel, roba del genere, a quel punto uno può pure lasciare. Possiamo farne sì, sì, no, ma infatti questa cosa non, chiaramente non è che appesantisce il gioco, che penalizza il gioco in qualche modo. Perché, per esempio, a me Braid è piaciuto moltissimo, nonostante questa cosa che non sono riuscito a capire proprio, no? Quindi non certo. So, secondo me è un elemento che potrebbero anche, quando è troppo reiterato, quando è troppo insomma così, magari possono anche pensare di non mettercelo proprio, ecco, cioè, perché il gioco va bene così anche senza componente criptica e visionaria, diciamo, no? Anche i giochi della Amanita Design, quelli là di sì. Machinarium, no? quelli non è che sono criptici, però sono stilisticamente molto molto forti, quindi se sì, non ti piace quello stile lì esatto, sono d'accordo con te. Che è quello che secondo me sta accadendo anche con, io ho visto proprio il trailer di pochi giorni fa di Tim Schafer, visto ieri, Broken Age. Sì. Broken Age è molto ispirato. Io non so quante persone possano giovarne e gioirne dall'impatto grafico. Non è brutto, però è molto particolare come sì, sì. Però bisogna anche dire che Tim Schafer storicamente è sempre andato un po' alla ricerca dello stile grafico, cioè sul fotorealismo non si è mai buttato, quindi anche soprattutto Psychonauts, non so se qualcuno se lo ricorda, sì, lì erano sì, proprio sì. Stili, cioè la grafica era molto particolare, il character design fa bene, però fa bene. Sì. Quindi forse sì, io ti dico, là va molto, molto a gusto. Cioè, io, come ho detto anche nell'altro podcast, a pelle Broken Age come stile non mi piace moltissimo. Però, cioè, apprezzo pure il tentativo di buttarsi un po' su, anche perché poi non puoi fare fotorealismo neanche con quei 3 milioni che ha preso su Kickstarter. Sì. Anche perché notizia di oggi che ha detto che non basteranno sì, nemmeno sì, per farlo uscire. Problemi di soldi, quindi, adesso fanno due parti, lo dividono. Sì. Sta cominciando, mi sembra già cagando fuori come un comico genovese, mi sembra. No, perché poi no, che poi ricordiamo che lui aveva festeggiato con i soldi, con le fotografie, con i soldi in mano che uscivano dalle orecchie, dal naso, e invece adesso dice che ha problemi, un po' paradossale. Questo ci introduce bene anche a Kickstarter, a questo nuovo ecosistema che secondo me fa parte anche, cioè può aiutare anche a interpretare sia l'indie che anche il mondo del mercato PC, però nel senso, questo modello di autoproduzione, quindi Kickstarter, Indiegogo, Gogo, come cazzarola si dice, e compagnia bella, e tutto quello che ha generato anche Steam come digital delivery, vendita di licenza o comunque del prodotto, Origin, Zodiac in questo caso, Desura, quanto ha influito sul mercato mainstream e quanto ha influito pure necessariamente su quello indie, e se questo ha comunque influenzato dal punto di vista del design, nel senso, la distribuzione in questa maniera è possibile che abbia generato idee nuove, come per esempio a parte DLC, che vabbè è la più scontata, però quella c'è anche sul console, ma per esempio le cose episodi, cioè se non avessimo avuto un tipo di vendita così sia per gli indie che poi per episodi e indie, viene subito in mente Telltale, giustamente. Chiaro, certo. Esatto. E diciamo, in qualche maniera, questa, la possibilità di vendere così, e quindi anche Broken Age, che lo daranno in due, pare che lo diano in due parti, ma ovviamente la notizia deve essere confermata, però diciamo quello che ci è arrivato ad oggi, che faranno la prima parte e con i soldi della vendita delle vendite della prima parte faranno la seconda. Cioè, questi accrocchi, queste maniere nuove di distribuzione hanno influito in qualche maniera, secondo voi, sul design, oltre che proprio sul modello? Io sentirei Cristiano, visto che sicuramente stavo per dire. Ah, io sentirei anche tu. Sì, tutto ciò. Poi io ho fatto esempio del tele come uno stronzo. Voi state facendo un gioco. Noi stiamo facendo. Sì, poi ci arriviamo. No, però può essere, ce lo puoi introdurre qua. Sì, sì, sì. No, ma infatti. Infatti, no, dal punto di vista, cioè, Steam è comunque la distribuzione digitale, io da dire solo cose positive per quanto mi riguarda, perché, cioè, è chiaro che l'universo indipendente sia stato fortemente, cioè per larga parte creato dalla distribuzione digitale, c'è poco da fare, cioè perché tu ti autoproduci, mandi così, ma anche se non ti autoproduci è proprio più facile, no? In questo momento c'è Greenlight che ingolfa un pochino la situazione, infatti pare che ci ripenseranno e tutto, però però in generale Steam ha fatto arrivare giochi che non si sarebbero mai visti, e comunque non solo Steam, proprio la distribuzione digitale in sé. Noi, vabbè, a parte chiaramente Zodiac, che comunque ha distribuito giochi anche italiani come il nostro Shadows on the Vatican, anche Face Noir in esclusiva, oppure Nicolas Emmerich della Ticon Blue, mi sembra, però a parte questo, cioè comunque la distribuzione digitale favorisce, chiaramente più semplice, senza stare lì a distribuire, a fare la confezione, il manuale, questo e l'altro, a rivolgersi ai negozi, quello è tutto un percorso complicato che in questo periodo, cioè che prima o poi andrà pure un pochino a morire, no? Oppure comunque faranno solo edizioni deluxe, no? Quindi sicuramente questo ha aiutato i piccoli sviluppatori, però Kickstarter secondo me è un discorso diverso, però, cioè inizialmente la modalità, cioè il fatto di poter finanziarsi attraverso il pubblico è sicuramente stato un fatto positivo, perché comunque chiaramente chi non può rivolgersi a dei finanziatori in questo modo almeno tasta pure un po' il terreno per vedere che tipo di interesse c'è attorno al titolo, eccetera. Il problema è che anche lì si rischia un pochino di abusarne, no? Per esempio alcuni giochi sono stati buttati su Kickstarter in modo anche un pochino scriteriato, no? Per esempio Z War, là com'era? War of Z? Non mi ricordo. Ho capito. Sì, dai, quello dei zombie. Quello era in pre-alpha. Ah, World War Z. No, quello è World War Z. Sì. No, quello non è il film. Film quello. World War Z. Comunque ho capito. Quello con gli zombie brutto. Ecco. Sì. Giusto, no, mi confondo il film. È quello che poi è stato bloccato su Steam per un certo periodo. The World Z. Vabbè, stiamo lì. Scusate. Sì, oppure c'è pure ultimamente il caso, ne abbiamo parlato sull'altro podcast di Bill Tiller con il prequel di A Vampire Story, no? Che era un titolo che non ha convinto, lui comunque si è ostinato a fare mettere su Kickstarter il prequel, che poi in realtà era un episodico, che poi non si è capito se l'avrebbe fatto pure gli altri, e il risultato è che poi alla fine non è riuscito a finanziarlo. Però poi per quanto riguarda gli episodici, io chiaramente potete capire sono sicuramente a favore, molto a favore degli episodici, ma proprio come, non tanto come distribuzione, ma proprio come discorso narrativo, cioè proprio seriale, che a me interessa di più da questo punto di vista, no? Poi è chiaro che l'episodico deve essere onesto, quindi deve avere una cadenza giusta, cioè non bisogna fare degli episodici troppo che durano 2 anni, no? Chiaramente, quindi poi questo fra l'altro è uno dei problemi nostri che magari inserirò dopo, però dal punto di vista narrativo a me interessa molto l'episodio. Dal punto di vista della distribuzione, finché è onesto, cioè finché l'episodico tu dici arriverà entro 2 mesi o entro anche 5 mesi, dipende, pure anche uno all'anno puoi fare se lo dici prima e se comunque il tipo di esperienza è in qualche modo si compensa l'attesa, diciamo, no? Però sicuramente se tu fai un gioco episodico te lo fai più corto, hai più possibilità di riuscire a finirlo, molto semplicemente perché il gioco di 15 ore è difficile riuscire a terminarlo o a curarlo bene, mentre invece il gioco più corto hai più modo di lavorare sui dettagli, sulle cose, di inserire. Noi per esempio se siamo riusciti a inserire il doppiaggio in Shadows of the Vatican è perché episodico, se no altrimenti col cavolo che lo mettevamo, specialmente in italiano, quindi c'è un fatto finanziario dietro chiaramente. Però per quanto riguarda lo sviluppo e il design, secondo me è ancora c'è una cosa che poi dicevate, vabbè sì, ci si mischia, però lo dicevate in Calavera, ma la cosa bella è la fruizione come fosse una serie TV, che in alcuni casi esalta ancora di più il prodotto, secondo me, nel senso che io che mi sto occupando per The Indiscerto della recensione di Shadow of the Vatican, comunque sono, e vabbè anche Cognition, che è un altro gioco nato su Kickstarter, quindi proprio siamo in pieno topic, diciamo, me l'aspetto, cioè l'aspetto, dico trepidante, ma insomma sono abbastanza fiducioso, no scusa, sono abbastanza ansioso di vedere come va avanti la storia, che fine faranno i personaggi, insomma questo tipo di fruizione secondo me aiuta, oltre che appunto essere meno gravosa anche a livello economico, perché se tu fai un episodio per volta, che io ti compro una volta ogni tanto, c'è una spesa che mi permetto di più, c'è anche una fruizione, scusate Pizzi mi sta scrivendo su Facebook e mi sta facendo di trasmissione che a me non mi sta bene, ha detto. Che è un vecchio adagio che lui si porta avanti, e dico anche la fruizione così come fosse effettivamente una serie TV cambia qualcosa e aggiunge, arricchisce l'esperienza, secondo me. Sì, è una cosa diversa sicuramente. E anche pensarla così, credo che voi dal punto di vista dello sviluppo e del design vi porta a pensare dove mettere il cliffhanger, dove inserire magari un calo di tensione, invece dove salire, e anche il tempo ristretto vi permette di fare delle cose più asciutte o magari più larghe, cioè aprire diverse trame per poi non chiuderne qualcuna. Insomma, c'ha delle dinamiche molto più da televisione che da serie TV, che in questa maniera, contaminandosi, potrebbero portare a qualcosa di buono. Vedi appunto Shadow of the Vatican, Telltale e quello che è, insomma. Infatti cambia molto anche il game design in questi giochi, cioè per esempio i Telltale facevano un formato che era composto, generalmente l'hanno fatto fino a, credo, Tales of Monkey Island escluso, mi sembra, hanno sempre fatto preso una formula, hanno sempre replicato la stessa formula, cioè prima un prologo molto breve, poi due sezioni non lineari in cui generalmente si dovevano trovare classici tre oggetti o comunque risolvere tre problemi, e poi un finale come il prologo più raccolto, più diciamo d'azione, più ritmato, no? Mm-hmm. E facevano sempre questo tipo di formula, cioè l'hanno replicata, poi hanno cambiato, ma comunque stiamo sempre lì, cioè se il tempo hai 3-4 ore di gioco, comunque non puoi fare una lunga sezione non lineare, cioè non puoi fare tipo, non so se qualcuno ricorda Hollywood Monsters, cioè perché Hollywood Monsters oppure il Larry numero 7, insomma ci sono un sacco di giochi in cui tu stai fin dall'inizio del gioco hai a disposizione quasi tutta la mappa, no? E questo non lo puoi fare in un episodico, perché sennò cioè, sarebbe impossibile. Quindi dal nostro punto di vista, noi con Vatican pure abbiamo fatto più o meno quel tipo di formula lì, o più o meno, perché comunque i tempi sono diversi, quindi pure noi abbiamo adottato un momento più veloce all'inizio, cioè con meno location, più raccolto, e poi dopo nel finale una location soltanto, eccetera, mentre invece la parte centrale era un po' più lunga e meno lineare, no? Però sì, questo dal punto di vista design, poi come dici tu anche dal punto di vista narrativo, anche dal punto di vista della fruizione, cioè cambia completamente, però cioè non è che c'è da preferire uno o l'altro, cioè è bello che ci sia pure varietà, certo, no? Quindi, certo, no, ma infatti secondo me queste sono solo novità positive, cioè le accogliamo. Perciò in quanto crei un po' di varietà, secondo me è positivo già di per sé, diciamo. E cioè, arrivando a questo tipo di distribuzione portata all'eccesso, proprio esasperata, io ti devo chiedere per forza cosa ne pensi di tutta la distribuzione invece quella tramite cioè per il mercato mobile, quindi tramite iTunes, tramite il Play Store o il Windows, non so, il marketplace di Windows, non so come si chiama quello di Windows, Windows Store, non lo so, insomma, comunque hai capito. Dico, come ha aiutato, visto che fondamentalmente sui cellulari ci sono stati praticamente solo indie, se non qualcosa, ma tipo, cioè, se a me Square fa il Final Fantasy o il, come si chiama, Chaos Ring, Chaos Ring su, e me lo vendi a 15 euro o Final Fantasy l'ennesimo, vendi a 10-15 la conversione del gioco cioè, mamma dice che più di 3 dollari non posso spendere, esatto, capito? Ma io di quello non, nel senso, quello non è che lo considero, però se ci pensi l'esplosione pure lì, Angry Birds, Doodle Jump, Cut the Rope, cioè a parte chi ha mangiato la foglia e quindi poi ha fatto un team vero e proprio, si è fatto spingere da qualche, cioè nel senso, Angry Birds ci credo, ancora ci credo, ma io non ci credo che Cut the Rope, dietro Cut the Rope c'erano 4 amici scazzati dentro il garage, classico, per dire. Però dico, quello secondo me ha influito nella diffusione, o proprio nel, come dicevi tu prima, nel recepire il prodotto indie diversamente che non rispetto al classico, e rispetto alla classica fruizione, al classico gioco che poteva uscire sul cellulare o che può uscire ancora oggi sul cellulare, cioè Sega tira fuori Gunlet, mi pare che fosse Gunlet o Golden Axe, scusate, che è ingiocabile, era ingiocabile, devi fare patch, tira fuori Sonic, come fai a giocare a Sonic col touch? No, madonna, io ho finito Sonic CD nel mio vecchio iPhone 3G. Ma era proprio da App Store o? In che senso? No, era da App Store. Era un. Cioè ufficiale, dico. Sì, non è ufficiale, ufficiale. Cioè, ho comprato, eccetera, con tutti i crismi. E devo dire che sì, ecco. l'unica soluzione è attaccarci una periferica che ti dia un, nel caso di platform, secondo me, che ti dia una tastiera fisica, perché quella virtuale continuo a trovarla sempre troppo scarsa, ecco, letteralmente scarsa, come gli FPS su console, ad esempio. Cioè, io non mi li gioco, mi piacciono, ma non batteranno mai mouse e tastiera per un FPS, per me. Idem, la tastiera virtuale non è ancora riuscita a farmi apprezzare, farmi giocare decentemente un gioco sul cellulare. Questa secondo me è una grande limitazione, e anche per gli indie, perché uno potrebbe tirare fuori magari certi giochi forte del fatto che possono essere apprezzati a pieno anche nei videogiochi, scusa, anche nei cellulari, anche negli smartphone per la precisione. Però cioè, quello che penso io, che poi è una domanda, cioè dal punto di vista oltre che di diffusione, anche lo sviluppo deve essere adeguato. Cioè, quello che voglio dire è che ci sono arrivati molto prima gli indipendenti che non le grosse case a capire che tu devi fare un gioco che nasce su quel controllo, su quei controlli. Perché mi fa la conversione del cazzo, cioè Sonic fammelo, ma fallo come hanno fatto Ubisoft, che sono intelligenti, dove tu spingi, cioè giochi a Rayman ma salti e basta. Sì, allora, ecco, esatto. Mi stravolgi il gameplay, ma io mantengo l'affetto per il personaggio. Tra l'altro, se vi capita, prendetevi Rayman Origin. Che è bellissimo, quindi prendetelo dove vi capita, quindi ve lo consiglio. E prendetevi anche Rayman Jungle Run, che è appunto la versione iOS e insomma, diciamo, mobile, che è devastante, perché tu ti rimane l'affetto per il personaggio. Perché comunque magari ce l'hai, specialmente quando tirano fuori un gioco così, un platform che non si vede dall'85 su 360, però me lo stravolgi, me lo fa diventare un nuovo gioco, un altro prodotto che si adegua al controllo. Ma Ubisoft è una delle poche che c'è riuscita, o almeno adesso si stanno vedendo questi sforzi. Prima c'era la conversione becera del cavolo, che non portava a niente. Che io non me lo gioco Sonic, che poi di precisione su sì è quello, ecco, magari già un Golden Axe forse è più giocabile, sì, perché comunque non devi avere questa precisione infinita, ecco. Sì, ok, devi beccare il nemico, ma più o meno ce la fai. Ma Sonic no, cioè devi essere preciso, cioè devi avere un coso 1-1, è come laggare da quel punto di vista, ecco. No, quindi, non va bene. Quindi dico, secondo te si può dire che insomma hanno su questo il mercato mobile ha aiutato molto comunque lo sviluppo indipendente in una maniera o nell'altra? Ma io ti dico la verità, non seguo moltissimo la scena dei cellulari, comunque lo sviluppo mobile, però non vorrei mai entrare in un altro discorso, comunque dire cose che non c'entrano niente, però okay. Cioè, è chiaro che dipende moltissimo dal genere, cioè nel senso che comunque, ecco, per esempio le avventure grafiche di stampo classico, per esempio, si adattano bene anche. Io sto giocando, adesso mi ricordo, Broken Sword, la Director's Cut, sì. Quello è stato, non so, sì, mi sembra che inizialmente era stato per Nintendo DS, sì, poi hanno convertito per per Wii, poi dopo è arrivato pure il PC. Io l'ho giocato su DS e meritava molto su DS, e su cellulare io ce l'ho perché fa parte dei giochi dell'Android Bundle, ma non l'ho giocato perché non, cioè l'ho già giocato, ma ecco, quello, altri punti e clicca, secondo me sono una fetta di mercato che viene poco sfruttata, perché quelli che vedo sono spesso copie carbone dei punti e clicca emulate in un modo o nell'altro, oppure sono io che mi metto i giochi con lo SCUM finito lì. Oppure sì, oppure si tratta proprio di conversioni per chi non ha il PC o per chi non prende la roba, esatto, PC, ma diciamo. Basterebbe poco secondo me per modificare, come hanno fatto appunto nel caso di Broken Sword o di Captain Brave, che è giocabilissimo su cellulare, chiaramente previ uno schermo di dimensioni, di grandezza grande, diciamo. Ma io ti posso dire che è anche una questione di engine, cioè per esempio noi usiamo per Vatican un engine che si chiama Wintermute, che forse è lo stesso di Captain Brave, non vorrei sbagliarmi, però quello non si può convertire su cellulare, cioè a meno che non riprogrammi tutto in un altro linguaggio, e quindi se è lo stesso di Captain Brave, dovrebbe, cioè Captain Brave c'è sul cellulare ed è una versione per che, cellulare, quindi può darsi che quello l'abbiano rifatto da zero, perciò mi sembra strano, perché però mi sembra che era proprio Wintermute. Però questo è un problema che hanno tutti i giochi che vengono realizzati con Wintermute, e anche quelli su AGS, tipo appunto quelli della Wadget che abbiamo citato prima, Gemini eccetera eccetera. Sì, esatto, quello a me era dispiaciuto, ad esempio, non poterlo giocare, cioè sarebbe stato un ottimo gioco da cellulare, secondo me, un punto e clicca da cellulare. Gemini Ryu. Ma infatti sì, io credo che le conversioni convengano a tutti, cioè quello, quindi quando non si fa è perché c'è qualche problema di qualche tipo. Noi con Wintermute siamo bloccati, cioè per esempio non lo possiamo fare. Adesso Broken Sword probabilmente lì avevano già pronto qualche tipo di, avevano un engine un po' più elastico perché già avevano fatto per Nintendo DS, quindi forse lì la conversione è stata più indolore, però vabbè, generalmente no. Poi lì poi c'è anche da se è necessario ritoccare l'interfaccia, addirittura enigmi interi, quindi forse si tratta pure un po' di adattarlo il gioco, no? Perché è chiaro che non puoi, anche stesso che ti devo dire, per la posizione dei personaggi bisogna reinterpretare, di dire all'engine di metterli in posti diversi, perché chiaramente lo spazio è diverso, per cui come minimo, certo questo pure dipenderà dall'engine, probabilmente ci sono engine che lo fanno in automatico, non lo so, perché non essendo un programmatore andando più avanti ci saranno delle cose che te lo fanno in automatico. Per esempio Unity lo fa, per esempio Unity è un engine che non so se lo fa in automatico, però sicuramente lì la conversione è possibile. Comunque finisci la frase almeno. No, ho finito, quindi con Unity è possibile. Prego. Ecco. Quindi possiamo dire che anche quello comunque ha aiutato anche nel abituare l'occhio a un determinato, alla grafica magari un po' scadente, però al gameplay che prende, insomma, diciamo che ha contribuito molto, forse possiamo dirlo, che il mercato mobile in qualche maniera ha dato un'altra grossa mano. Non lo so se è proprio sugli indipendenti o comunque più si fa un discorso di genere, perché se forse vogliamo, hai ragione, sì, perché forse se vogliamo, io penso che i cellulari chiaramente di più perché sono più rivolti a un pubblico casual, cioè perché comunque giochi in posti così, però sono quasi cugini dei dispositivi portatili, che fra l'altro stanno praticamente scomparendo, no? Quelli dico proprio il Nintendo DS oppure queste cose qui, sì, PS Vita, certo. Perché comunque io quello che ho capito è che in futuro avranno vita molto più difficile i dispositivi portatili, e che comunque preferiranno andare sui cellulari, giochi eccetera, però questo vabbè, qui si potrebbe aprire veramente è una questione nella quale secondo me è meglio non entrare per sì, diciamo, motivi di lunghezza, giochi, non per non, poca importanza, ecco. Se i giochi li fai e per la console, magari qualcuno te li compra. Se fai i giochi veri, se fai i giochi da cellulare spostati sulla console portatile, esatto, da 200 euro, certo, magari certo. No, e basta. Poi salutiamo Tretton che ci ascolta, sì. E ci ascolta sempre. Allora, così a bruciapelo, Ouya Indy è un matrimonio fattibile? Ma soprattutto, come si pronuncia? Ouya, Ouya, Ouya, Ouya. Sentiamo prima Stefano, così mi attacco, sì, perché anche qui sapete che sui portatili e sul dispositivo Android sono un po' così. No, allora direi che secondo me il matrimonio è più che fattibile, perché comunque, anzi, già col parco giochi, diciamo, con cui parte la console, la maggior parte sono giochi definibili come indie, quindi piccole mini produzioni, a volte diventate insomma abbastanza famose su cellulare o comunque su internet, portate poi sulla console. Se date un'occhiata alle possibilità, io l'avevo fatto un po' di tempo fa per interesse nella console. Il problema è che bisogna vedere dove va a parare la console in sé. Nel senso, il matrimonio è fattibile. È una console che sembra nata, creata proprio per supportare, cioè creata da uno sviluppo di tipo indipendente, quindi lontano dalle major, Sony, Microsoft e così via. Quindi già parte con una base comune a quella che può essere quella di giochi indie, e parte appunto con una serie di giochi indipendenti indie. E il problema è che bisogna vedere se è conveniente per uno sviluppatore buttarsi su quella console in base a quanto venderà la console, perché sicuramente non venderà quanto i mostri sacri, diciamo PS4 e Xboxone. Oddio, per come sta andando Xboxone, probabilmente potrebbe anche vendere di più. No, non penso, però dico, non è che sia questo capolavoro. Però ecco, avranno un pubblico più ridotto, è un pubblico sicuramente di nicchia, magari molto più molto più intelligente, molto più attento, ecco, alla... Cristiano, insomma, ci fai la conversione per Uglia di Shadow of the Battle. Dopo quello che ho detto, io, secondo me, ma per me il gioco sì. No, io penso che ma per me lo possono fare pure su Game Boy, per quanto mi riguarda, più posti c'è, più su più console c'è, meglio è. Questo è sicuro. No, io te l'ho detto, sulle console non seguo moltissimo, però non so, forse il rischio qui magari è che non vorrei che si concentrassero un po' tutti qua, perché secondo me l'indipendente, come qualsiasi altra cosa anche, cioè non è che deve avere una collocazione precisa, cioè uno fa un gioco indipendente, può mettere dove gli pare. Sì, insomma, no, vabbè, insomma, era una battuta nel dire, secondo te è una cosa fallimentare o su cui ci si può investire? Sì, no, insomma. Ma adesso non so bene come funziona per le conversioni su questi sistemi, però vabbè, bisogna sicuramente aspettare prima l'uscita e vedere come gira un po' le cose, però spero soltanto che non si concentrino tutti lì, quindi un certo tipo di dipendenti. Dubito che si concentrino tutti lì, considerando che c'è un mercato più semplice come quello dei cellulari, appunto, ecco, mettiamola così. Ma forse, sai, magari la prepista per tutta una serie di cose del futuro. Sì, ma infatti Wii è stato pure quello baluardo, sì, di poi 40-50 cose uguali che però esatto, portano il nome di Wii. Cioè, nel senso, forse è quella fase in cui sono arrivati i primi, però o reggono il confronto oppure li fagociterà qualcuno e c'ha l'idea brillante e vi devasterà. Anche perché non so se Stefano prima ero, non so sicuro se l'hai detto, ma come macchina da emulazione probabilmente è il top e non Pro Ultra. Ah sì, per carità, ma perché io per delle persone che la stanno usando per quello, e ho visto anche qualcosa su qualche report su internet. No, ma non lo metto in dubbio, il punto è che senza andare a comprarmi Ouya, io ho semplicemente televisore collegato al computer, mi sposto da uno schermo all'altro la schermata dell'emulatore e ho tutti gli emulatori, ecco, cioè, certo, senza stare lì a comprarmi Ouya. Poi per carità, ecco, cioè, non me la sento di comprarla solo per quello, nonostante io sia un fissato di emulazione e balle così, quindi cioè, sono di quelli che appena cambia cellulare ci mette sempre lo SCUM, ci mette sempre ci mette tutti gli emulatori e poi magari non li usa neanche completamente, ecco. Io però sono un po' comodino, quindi su quello io la comprerei, cioè io tu dici con vergogna dico che io ho un Apple TV, quindi per pigrizia, ecco, sì, cioè, sì, per cioè non stare lì a sbatterti, esatto, 99 quanto costa, la metti sotto il televisore, con gli emulatori tutti i giochi di SNES, tutti i giochi di Nintendo 64, tutto quello che puoi, attacchi, sì, ma è a parte che è illegale, Simone, perché devi avere sono copie di backup. Io ce l'ho tutte. Sono copie di backup, sì? Ce le ho tutti a casa. Va bene, allora ok. Vabbè, wow, ma è gigante. Esatto. Comunque, cioè, nel senso, le note dell'episodio, esatto, mostreremo la foto. No, cioè, ti compri un cavo HDMI che paghi, non lo so, 15 euro, un po' lungo, e è la stessa cosa. Nel senso, no, dico, perché devi sbatterti su PC. Ma vabbè, che ti sbatti su PC, cosa devi fare? Devi scaricarti l'emulatore. Vieni a installarti. Ma lo faccio volentieri. Facciamo un TeamViewer e mi installi il MAME su Mac. Va bene, non ci vuole. Ah, te l'avevo anche passato. Effettivamente non questo... ne funziona uno di quei. Ma di quelli che ti avevo passato io? Vabbè, allora sei tu, perché io li usavo. Sì, probabilmente sì, ma infatti per quello ti dico, se c'è un tipo l'app che io non faccio nient'altro che copiare dentro la cartella e funziona. Sì, sono quelli che ti ho dato io, comunque. E vabbè, cioè, poi no, perché so per Tiger, ma ne parliamo dopo. Voi forse pensate, cioè, che questa console possa rendere casual qualcosa che di solito i casual non fanno. Cioè, questo forse magari, tipo, gli emulatori li usano gli smanettoni, no? Cioè, quelli comunque. No, che no, infatti, per quello dico, cioè, l'interpretazione che gli hanno dato i produttori per ora è nulla, perché non ci sono giochi. I giochi che ci sono sono: dov'è la mia acqua? rifatto, cioè ci giochi della roba che non dove c'è. Dove il mio Perry, che è quello di, della Disney. Esatto, cioè non ha esattamente, non ha assolutamente un motivo di esistere adesso. Io poi lo store non sto seguendo com'è, diciamo che sta uscendo adesso al pubblico, quindi vediamo gli sviluppi. Però per ora non c'è un mercato per questa, cioè per me non c'è un mercato, a meno che non esce il gioco che caratterizza il gioco su Ouya, capito? Cioè, sì, sì, certo, la killer application, diciamo. Sì, diciamo la killer application, esatto. Mm. Quindi per ora per me è una perfetta macchina di emulazione, magari legge pure qualche MKV o qualche, cioè, capito, cioè qualcosa. Ma cioè, secondo te, secondo voi un, non lo so, una persona che appunto non è abituata a stare lì con MAME, comunque a emulare su un PC, cioè, non, magari trova più semplice farlo su questa console, anche se chiaramente questo non c'entra niente il mercato, perché se si parla di roba magari primo, eccetera, però va bene, magari una persona che di solito non usa gli emulatori comincerà a usarla grazie a questa console, no? Quindi forse c'è un, forse sì, un oppure po' potrebbero fare questo, delle cose un po' più interessanti, tipo renderli tra virgolette legali, fare un progetto oppure di abbonamento, sì, dove tu li converti, sì, sì, proprio, sì, prendi chi c'ha i diritti, chi c'ha e insomma chi ci può mettere le mani sui titoli, prendi una schiera di titoli e li converti, che poi fai, vuol dire prendi l'emulatore, lo rendi ufficiale alla fine. E io pure so come fecero con The Room per Xbox, che però misero delle cose che erano inguardabili. Fai la stessa cosa dove mi metti tutta la libreria SNES, io magari ti do 10 euro l'anno, che ne so, e tu me li dai aggiornati carini, che, e io Ouya me la compro, cioè capito, voglio dire, me la compro Ouya, ci sto, perché quella è una perfetta macchina di emulazione, cioè è un'altra, tanto sulle console normali non lo fanno, te lo fanno pagare 10-15 euro, qui facciamo dipende, anche sull'Xbox 360 volendo puoi avere tutti gli emulatori, ma devi avere una console modificata, appunto, ecco. Dico, devi sbatterti di più e rischiare anche i soldi della console. Allora se vuoi mantenere il tuo live, mantenere tutto, se me lo vuoi fare legale me lo fai su Ouya, che magari non c'ha le royalties, capito, magari non c'è tutto quel meccanismo, quindi puoi fare dei prezzi concorrenziali e mi offri un servizio, e così non ha senso, però vediamo, cioè ancora è embrionale secondo me per quanto sia uscita, ecco. Ma a parte questo, allora adesso mi introduco a gamba tesa. Vai. Cristiano, eccolo là com'è la situazione, tu che sei un insider, com'è la situazione in Italia degli indie? Punto interrogativo. Ma no, però mi devi ridire insider con quella voce. Insider. Or the insider of the independent community of gaming, eccetera, eccetera. Era iniziato, sì, un po' meglio. Lo so. Ero proprio in un mood di estasi. Oh yes, the insider. Ok. No, vabbè, in Italia io da quello che vedo c'è moltissimo fermento, secondo me. Cioè, chiaramente non pretendo adesso di sapere tutte le la situazione dei vari generi, anche se so che comunque sia, per esempio, un sito come Indie Vault, e anche non so se lo fate anche su Indie Shelter questa cosa, comunque ci sono diversi utenti che parlano dei loro progetti, ce ne sono parecchi proprio, no? Non lo so, Simone? Eccolo. Su c'è un movimento di autori indipendenti su Shelter, sì. C'è anche chi si autopubblicizza, diciamo. Io non lo so assolutamente. No. Ok. Fondamentalmente siamo tutti, che sono degli stronzi, ecco. Esatto. No, su Indie Vault c'è molto più. Su Indie Vault, infatti, da lì si può avere un pochino la percezione di quello che succede un po' in Italia, dei tentativi, che punto siamo, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda il campo più o meno mio, quello delle avventure, cioè solo nel 2012 sono usciti almeno, cioè, 4 giochi, 5 di rilievo, comunque, che è una roba che in Italia non succedeva da un sacco di tempo, no? Cioè, quindi senza manco, vabbè, a parte il nostro gioco Shadows of the Vatican, che sono usciti 2 episodi non in un anno preciso, ma comunque in quell'arco di tempo lì, comunque c'è anche, appunto, abbiamo citato pure prima il gioco di della T-Con Blu, Nicolas Seymour e Cola Peste, che è anche un episodico, Face Noir, e parecchi giochi della Median Design escono continuamente, che è un'altra casa di giochi indipendenti, che fa giochi piccolini ma è molto prolifica, cioè anche roba che viene valutata con voti altissimi anche all'estero, 4 su 5, 4 e mezzo su 5, cioè giochi comunque validi. E fra poco dovrebbe tornare anche l'art tematica, che è stata ferma per un po', e quindi insomma c'è secondo me veramente parecchia roba. Adesso bisogna vedere che succede dopo, perché l'inizio è stato, cioè la creatività c'è, e che forse bisogna vedere se riusciamo a venderle queste avventure oppure no, questi giochi, quello è un po' il problema, perché comunque diciamo secondo me la base creativa c'è in questo momento. E niente, va bene, cioè, c'è anche da dire che in Italia la produzione di videogiochi è sempre stata un pochino latitante, no? Cioè non è che c'è, forse la casa per eccellenza è la Simul Mondo, ma ormai sono 20-25 anni, cioè, vabbè, quindi... cacchio, la Simul Mondo parliamo di... Quindi no, per dire, cioè non è che abbiamo poi questi grossi esempi di case che sono stati sulla scena per molto tempo, quindi fra l'altro alcuni della Simul Mondo lavorano ancora oggi, per cui per dire sono comunque tornati, sono sempre loro. E, vabbè, niente, mi sembra buono il quadro comunque. Cioè, incoraggiante, bisogna vedere come andremo avanti, perché le idee ci sono, però, cioè, gli autori ci sono, ma forse bisogna vedere se riusciamo a commercializzare tutto questo. Poche idee ben confuse, ok. Come sempre. Va bene, quindi, ok, speriamo bene. Io direi poi di parlare invece, a proposito di indipendenti, non possiamo che nominare. Oddio, scusate, non so se ho nominato Face Noir, l'ho detto, no. Non l'ho detto? Lo dico adesso, no, lo dico. Fatto. Okay. È uscito nel Natale scorso ed è comunque uno dei giochi più rappresentativi in Italia, anche proprio un'avventura grafica classica. Avevo citato prima, mi sono dimenticato di citarla adesso, ok, vabbè. Ok, bene. Dicevamo quindi, prodotto di indipendenti, non possiamo che nominare il film documentario che negli ultimi tempi ha fatto discutere molto di giochi indipendenti, ovvero Indie Game The Movie. Indie Game The Movie, appunto, come appena detto, è un documentario che segue lo sviluppo e il rilascio, l'uscita di alcuni giochi indipendenti tra quelli di più successo, ecco, c'è da dire. Quindi in questo caso abbiamo sono degli inserti, delle cose di del creatore di Braid, di cui non ricordo, Jonathan Blow? Sì. Ok, non so com'è che mi ricordo, wow. Perché ho queste informazioni nella mia testa? Abbiamo detto prima. Avete detto prima, lo so, prima. Ma dovete capire che ho la memoria di un pesce rosso, quindi ogni 5 minuti via, si resetta tutto. E poi la produzione di Fats, di Super Meat Boy, di... aiuto. Sì, me ne manco. Dici. Fats, Super Meat Boy, Minecraft. No, Minecraft. No, c'era, è vero, c'era un testo. Ah, su Indie Game The Movie? Esatto. È vero, c'era un testo. Ah, sì, vero, verso la... Aiuto, c'è. Il bello è che l'ho visto al day one, capito? Ero lì tutto ansioso. Ragazzi, Fats, Super Meat Boy, Braid. No, Braid. C'erano solo degli inserti, delle lui parlava, ecco, bravi, vi sento. Vado subito. Tracca, così sì, si fa. Sì. No, perché effettivamente erano tre esempi, hai ragione, cioè... Indie Game The Movie parla di questo pizzico tagli, solo di questi due. E invece sai che qua dice sì, Fats, Super Meat Boy, e poi vabbè Braid, ma è una, vabbè, Braid era già uscito quando hanno girato gli specie film, di post mortem. Sì. Sì, ma allora sono due. No, forse sai cosa, è che essendo tre autori, due giochi, capito? Cioè, perché quelli di Super Meat Boy sono due, per cui forse tre con la moglie la moglie, certo. Madonna, anche quattro con la moglie di qua. No, vabbè. Dicevamo qui. Sì, deve essere così, hai ragione. Sono due. Sì, quindi esatto, partono da Kickstarter, quindi riescono a venire finanziati, stringono anche degli accordi e chiaramente fanno dei giochi in precedenza, avevano già creato qualcosa, quindi vengono notati dalle case di produzione grosse, quindi la Microsoft in questo caso, e vincono dei premi o delle nomination per l'Independent Game Festival, Penny Arcade Expo e così via. E quindi seguiamo la parte, diciamo, finale della produzione, quella da metà tre quarti sino alla fine, con pregi e difetti della cosa, nel senso che il quadro che ne viene fuori è di persone, almeno la mia impressione è, cioè, sono quasi preoccupanti, soprattutto Phil Fish di Fez è uno che racconta che appunto durante la sua lo sviluppo ha dovuto rincominciare il gioco, rifarlo da zero tante volte, ha perso il padre, ha perso la ragazza, cioè sono lasciati, il padre si è ammalato, cioè tutte delle cose. Poi lui c'è anche un aspetto da quel nerd un po' sfigato che, capito, cioè quello sfigato però triste, quello malinconico, quindi vedi questa cosa qui e lui che si ci butta dietro la vita su questo gioco e insomma questo così. Gli altri due, quelli di Super Meat Boy, invece sono già un po' più allegri, diciamo. Oddio, botta di vita. Uno sì, l'altro no. Uno sì, l'altro no, però c'è da dire che rispetto rispetto a Phil Fish sono delle poi la cosa si riduce a questo in effetti, perché quello più equilibrato era quell'unico con la ragazza, più diciamo, equilibrato poi si fa per dire quello di segnare i mostri a tre anni. Sì, esatto. Sì, ecco, c'è da dire che Binding of Isaac, ecco, quelli sicuramente qualche problemuccio. Sì, cioè, diciamo, per dire, io un giro dall'analista lo farei fare a tutti, ma alleviava. Non per come? Però alleviava con la sua dolce metà. Sì, no, ma per carità, cioè io non lo dico per prendere per il culo, lo dico per cioè seriamente. Per loro. No, per loro davvero, nel senso, hanno spero che riescano a sfogare così questi loro problemi, queste loro cose, perché secondo me il quadro che ne viene fuori è di persone che hanno qualche questione irrisolta con loro stessi anche, quindi usano lo sviluppo software e i videogiochi per fuggire dalla realtà, ma non in una maniera sana. Sì, esatto, cioè non c'è la fuggire dalla realtà, tipo sei tornato dal lavoro, dici vabbè, saluti la tua famiglia, dici loro vanno a letto, tu ti fai una partita e dici adesso mi distraggo un po', oppure ti guardi un film al cinema per ecco, con la fuga dalla realtà, o leggi un libro, ecco, cioè quelle cose sane, tra virgolette, insomma, umanamente riconosciute come sane. Lì mi sembra che ci sia più proprio una cosa di una questione morbosa con questo sviluppo, col fatto anche di rimanere indipendenti, questa cosa qui che anche loro viaggiano nella via di mezzo tra l'essere indipendenti e il fatto che comunque stringono accordi con le major. E quindi devono un po' destreggiarsi tra le due cose, perché come dire, un po' viene fuori anche il fatto che loro debbano chiaramente stare a chi ci sta mettendo i soldi, soprattutto Fez, tante volte è stato, come dire, ripreso dalla Microsoft perché ha avuto tantissimi come si dice, tantissime modifiche. Sì, tantissimi ritardi, ecco, cioè continuamente succedeva qualcosa e quelli vivevano in crunch time per anni e, cioè, e così non va bene, non va bene per gli studi di produzione grossi, figurati per delle persone che dovrebbero farlo per il piacere di creare qualcosa, ecco, quello secondo me è profondamente sbagliato. Però un film assolutamente interessante che io consiglio di vedere, si può trovare su Steam, su iTunes, nel loro sito senza come DRM free, senza, come si dice, come in italiano? Senza blocchi. Sì, senza blocchi di nessun tipo, Digital Rights Management, cose così. Ha vinto svariati premi, insomma. Diciamo che sono riusciti a confezionarlo poi seguendo, cioè con un documentario che però abbia una storia, una specie di film, comunque, perché c'è una fase iniziale, c'è la descrizione, cioè diciamo che sono riusciti a creare un po' di sì, di narrazione, fabula. Esatto, cioè non è lo gnu del Serengeti, che sai che più o meno quello corre nelle praterie e è finito lì, ecco, cioè esatto, quello più o meno va avanti sino all'uscita dei giochi e poco dopo, ecco, quindi segui la loro storia proprio, la loro storia personale anche. Quello che c'è dietro è quello che mi preoccupa di più, tra l'altro, quindi vabbè, esatto. Dettagli. Quindi non lo so, Simone, tu l'hai visto, ti è piaciuto? E poi Cristiano, sì, anche. Sì, sì, no, io ovviamente l'ho visto e hai detto più praticamente, potrei dire che hai detto tutto quello che c'era da dire. Per cui lo consiglio anch'io, ovviamente. Appunto, ripetiamo che è una cosa romanzata, c'è molta regia, cioè cose di regia, musica, è suggestivo, quindi c'è una cosa che potete vedere anche, a parte il fatto che non è doppiato, mm-hmm, è una cosa che potete vedere come un film. Cioè, non, beh, ma ci sono i sottotitoli, se non sì, erro. Sì, eh, sì, sì, sì, anche fatti bene. E, dico, non vi pensate che è una cosa, oh, magari per chi è neofita, insomma, che è dupalle, questi nerd che parlano. No, no, c'ha tutto uno sviluppo dove ti interessa andare avanti, però quello che hai detto te è più che esaustivo, direi. Bene, Cristiano, tu l'hai... Sì, allora io innanzitutto quando l'ho visto, io credo di averlo preso su un bundle di uno di questi siti, quindi ho preso un gioco, un film che si chiama Indie Game Movie in un bundle, cioè proprio il massimo. A un certo punto mi sono detto, vabbè, non avevo niente da fare, ho detto, vabbè, guardiamo questo film sui giochini, che sarà mai, no? E invece mi sono trovato di fronte a qualcosa che mi ha fatto, cioè, veramente empatizzare tantissimo con gli autori, no? Ma io chiaramente bisogna tener conto che il film può essere stato un pochino romanzato, come ha detto anche Simona, calcato su certe cose, chissà cosa hanno tagliato, chissà quanto è pilotato, chiaramente bisogna tenerne conto, no, di queste cose. Però cioè, come insider, però se lo dico io non va bene, quindi dillo tu, scusa Stefano, come dimmi insider per insider. Ecco, grazie. Come insider, no, posso dire più o meno, più che altro, come è stata un pochino la mia esperienza in rapporto a quella loro, se mi date un due minuti, non so, no? Vabbè, ci mancherebbe, lo chiediamo apposta. Cioè. No, perché praticamente quello che ho notato è che, innanzitutto, come abbiamo anche detto prima, sono tutti molto molto disturbati nel film, cioè proprio sono persone che hanno qualche problema, più di uno probabilmente, e quello meno problematico probabilmente è quello che disegnava demoni tremendi all'età di 4 anni, per cui, per far capire un pochino la media, no? Secondo me il discorso è che dipende molto dalle persone che ci lavorano, cioè chi affronta una produzione indipendente o comunque da autoriale di un videogioco bisogna sempre vedere che persona è, perché cioè, ci sono persone che vivono la cosa in modo molto molto accorato, molto molto ossessivo, diciamo, no? Quindi dipende anche un pochino quanta pressione hai sulle spalle, tutto quanto, cioè di solito quando cominci l'importante è riuscire a finire in tempi brevi, perché se la cosa dura molto innanzitutto non hai diciamo sicurezza economica fin quando non esce il gioco, perlomeno, per cui tu stai lì e cominci comunque a lavorare a qualcosa e a rinunciare a tante altre cose, cioè quindi ti cominci a far problemi per comprarti qualcosa, per acquistare, per uscire dalle vacanze, quindi qualunque cosa, dato che non hai questo tipo di certezza, ti devi attaccare, insomma, no? Poi puoi avere comunque persone che non capiscono quello che stai facendo, quindi per esempio la famiglia ti può remare contro, comunque perlomeno non capire, perché noi viviamo, chiaramente siamo forse la prima generazione di che è nata videogiocando e che ha continuato poi ad essere comunque autori, forse non siamo la prima, forse siamo la seconda, però i nostri genitori chiaramente non possono capire, quindi la famiglia può essere anche un problema proprio di livello psicologico, pressioni psicologiche proprio, no? Però questo dipende anche molto quanto tu riesci a essere quanto di tuo c'è nel progetto, perché io penso che un pochino tutti quelli che hanno un ruolo creativo importante, anche infatti gli scrittori, i registi, no? Comunque queste persone qui hanno comunque una componente ossessiva verso il loro lavoro sempre, no? Quindi comunque per esempio tu cominci a sviluppare e ti rendi conto all'inizio che gli hobby che avevi, tipo per esempio il cinema, tipo per esempio leggere un romanzo, oppure peggio ancora i videogiochi stessi, no? Non sono più hobby, perché in qualsiasi modo tu, attraverso il film, attraverso il videogioco, attraverso il romanzo, cerchi sempre di capire qualche meccanismo, soprattutto se fai avventure, no? Nel nostro caso, no? Quindi cerchi di capire perché questa cosa funziona, perché questa cosa non funziona, no? Cioè lo vedi in modo troppo critico, non ti rilassi più, per cui ti tocca proprio avere un approccio ossessivo verso quelli che erano i tuoi hobby, quindi praticamente perdi l'hobby e diventa quasi tutto un tentativo di ispirazione generale, no? E quindi poi ti ripeto, poi c'è il problema economico, perché comunque all'inizio cioè bisogna vedere quanto dura, cioè se dura un anno magari no, però se dura più di un anno il problema prima o poi sorge, perché chiaramente il ritorno economico è nelle vendite, quindi finché il gioco non esce così, e quindi comincia a essere ossessivo, cioè quando tu a un certo punto ti trovi che a rinunciare a, che ti devo dire, a un'uscita serale perché pensi che stai perdendo tempo e che potresti impiegarlo magari guardando un film e imparare qualcosa, allora c'è qualcosa che non va. Cioè quello è il momento in cui capisci che forse stai esagerando un pochino, no? E adesso ci dai il là per introdurre anche, visto che abbiamo parlato, puoi introdurre anche quello che è il lavoro che stai portando avanti adesso. Infatti poi ci sarei arrivato, perché in effetti poi dopo briglia sciolta, insomma, vai e... no vabbè, voi bloccatemi quando volete, fermo adesso, ok, no, stavo per dire dimmi veramente. Quindi sì, no, vabbè. Dimmi, ecco, no specifichiamo, allora sì, diciamo sì. Anzi, Cristiano, che voi pensate che l'abbiamo raccolto dalla strada, gli abbiamo dato da mangiare, si è affezionato, mi ci ha raccolto pizzi, non vuoi, esatto. Ma... qui ci raccattati siamo io e te, Stefano, diciamo. Io sì, ma io gli chiedevo l'elemosina sotto casa sua e capito, alla fine mi sono affezionato. Cristiano si occupa della realizzazione di un gioco, di un'avventura grafica italiana, correggimi poi se sbaglio qualcosa, che si chiama Shadows on the Vatican, distribuita da Zodiac, quindi zodiac-medio store.com. Trovate l'avventura Shadows on the Vatican, che sta avendo un buon successo nel pubblico, diciamo, e quindi essendo un'avventura indipendente lui cascava fagiuolo, diciamo, perché chiaramente parlando di giochi indipendenti, avendo uno sviluppatore, nel senso, non nel senso tecnico ma più nel senso della scrittura, giusto? Vabbè, diciamo regia, scrittura, un po' di game design, insomma, questa roba. Una serie di cose, abbiamo detto, beh, scusa, ce l'abbiamo, parliamolo, vediamo cosa da dirci. E quindi dico, come sono andate le cose con Shadows on the Vatican, come il progetto, come dire, è partito e come si è evoluta la cosa e dove siete arrivati con Shadows on the Vatican, dove volete andare anche a parte in altri posti. Non starò qui a dire detto così, che non starò qui a dire, prego. No vabbè, io insomma, brevissimissima panoramica. In realtà io il primo gioco che ho fatto è stato nel 2003, ho cominciato a sviluppare un altro Shadows, però uno Shadows of the Empire, che era un videogioco basato sull'universo di Guerre Stellari, che penso un po' tutti noi nerd conosciamo più o meno le basi. Non era un progetto partito da me, ma era partito da un mio amico Davide, e continuato con un altro amico che si chiama Dario, che li saluto entrambi, ed era stata probabilmente l'esperienza di sviluppo più interessante, più bella finora, perché comunque siamo tre amici, comunque avevamo, in qualche modo ci compensavamo a vicenda, quindi era proprio un lavoro di gruppo vero e proprio, cioè tutti quanti facevano qualcosa e il prodotto finale cercava di rispecchiare, no? Abbiamo fatto uscire una tech demo che potete trovare sul sito, che non so qual è, però no, perché è cambiato l'indirizzo. Però comunque, se cercate Shadows of the Empire Graphic Adventure, la trovate prima o poi. E poi sì, e poi abbiamo rilasciato anche una beta, però il gioco non siamo riusciti a finirlo, perché come spesso accade con i giochi amatoriali, sì, perché noi più che indipendenti usavamo dire amatoriale, perché proprio amatoriale è nostro, no? Quindi non è possibile neanche commercializzarlo per ovvi motivi, quindi è proprio un fan game, no? però era, beh, era un periodo Disney, prova a bussare, magari ti arresta, ecco. sì. Però adesso è peggiorata secondo me la cosa, prima forse erano un pochino più tolleranti, perché comunque su Guerre Stellari sono sempre stato un po' tollerante, è sempre uscito di tutto, però come usciva una cosa della LucasArts subito la chiudevano, quindi c'è qualcosa di ispirato a giochi della LucasArts, però su Guerre Stellari sono sempre stati più tolleranti. Vabbè, comunque niente, poi sono passato a commerciale con un gioco che potete anche questo googlarlo, si chiama Audere Semper, e anche lì insomma in qualche modo ci siamo trovati sospesi a un certo punto, è stato un po' sospeso il progetto e Vatican ha preso un pochino il suo posto. Io sono stato coinvolto quando il progetto era già stato avviato da Tentart, che è la casa, diciamo, che la software house che si è occupata di iniziare il progetto, no? In poche parole Tentart ha avuto, sintetizzando moltissimo, semplificando molto, lavorato soprattutto sulla parte della pre-produzione del gioco, mentre invece noi di Adventure Productions più che altro sullo sviluppo, no? Quindi in questo momento sono usciti due episodi, per fortuna siamo riusciti a uscire prima di impazzire completamente, perché comunque come dicevo anche prima il peso comunque proprio di tipo psicologico che può generare una produzione, uno sviluppo è micidiale, perché comunque i problemi sono tanti, e nel nostro caso io personalmente non sono l'autore del gioco, cioè non sono l'autore unico del gioco, è un progetto di gruppo, per cui diciamo che ci dividiamo un pochino le pressioni, le ansie, e tutto quanto, anche i meriti e i difetti, no, del gioco. Quindi da questo punto di vista siamo un pochino più alleggeriti. Il secondo episodio dovrebbe essere uscito a gennaio, mi sembra, in Italia, fra poco uscirà anche fuori. E stiamo preparando il terzo episodio, che di cui mi sto occupando specialmente io della parte narrativa questa volta, e non possiamo dire esattamente quando uscirà. Comunque il gioco, tanto per specificare di che stiamo parlando, è una storia ispirata a un saggio di David Yalop che si chiama Il nome di Dio, e che parla, diciamo, delle teorie, cioè espone delle teorie sulla morte del Papa Albino Luciani, che è avvolto un po' nel mistero, no? Quindi diciamo il discorso dell'avvelenamento, il coinvolgimento della P2, la banda della Magliana. Quindi il nostro gioco è una sorta di versione moderna di quei fatti lì, cioè come se si stessero ripercorrendo quei fatti, e quindi cioè nella realtà, insomma, cioè sono già avvenuti anche nell'universo di gioco, però adesso si sta riformando in qualche modo quella stessa situazione. È un'avventura grafica di stampo classico, episodica, quindi diciamo 3-4 ore di gioco più o meno per episodio, e niente, va bene. Io ti posso dire che riguardo comunque al mio ruolo, generalmente io avevo un materiale iniziale, diciamo, di tipo narrativo, e poi dopo ci andavo io a marciare, quindi se vogliamo la caratterizzazione dei personaggi e la regia è un pochino roba mia, e il coordinamento è stato fatto da me e da Carlo di Adventure Productions, che anche lui saluto, anche se non vuole mai essere citato. E quindi no, io cioè, diciamo che il primo progetto commerciale che abbiamo provato a sviluppare è purtroppo è andato in questa specie di limbo, non si capisce bene se uscirà, se non uscirà, quindi su questo ci ho contato moltissimo, sinceramente. Quindi adesso vedremo un pochino, abbiamo un pochino rallentato col terzo episodio, perché ci siamo resi conti che fra il primo e il secondo episodio è passato troppo tempo, cioè quindi c'è qualcosa da sistemare dal punto di vista delle uscite, e quindi ci siamo fermati ulteriormente per poter riorganizzarci e fare qualcosa che diciamo valesse il tempo che stiamo aspettando, e che comunque ci facesse organizzare meglio il lavoro senza sacrificare più niente, ecco. Quindi ci stiamo vedendo un pochino questo. Allo stato attuale, diciamo, abbiamo quasi terminato la fase di game design e di preproduzione, ecco. Bene, io faccio un appunto veloce su Papa Luciani, giusto per creare un po' di hype, che era il Papa che ha avuto il più breve pontificato della storia, ha durato, cos'era, quanti giorni? Tipo 30 giorni, qualcosa di questo, sì. Ecco, sì. Esatto, e da lì si narra che... Te lo dico subito. Ecco. Dal... allora... Sì, sì, mi sembra siamo da una trentina di giorni. Ecco. E anche lì, come stava anticipando Cristiano, le cause della morte sono, loro dicono per infarto, insomma per un infarto, altri dicono che sia stato fatto fuori per una serie di visioni troppo progressiste, diciamo, nei confronti della Chiesa. Infatti aspettiamo che presto anche Francesco, anche Papa Francesco venga, esatto, io quando l'ho sentito fare tutte quelle cose lì sullo Yor eccetera eccetera, no, ma infatti il nostro gioco stava uscendo proprio in quel periodo, sì, di scandalo massimo. Sì, cioè, ecco, e quindi è interessante vedere, ecco, un papa di cui non si parla molto, ecco, è abbastanza sconosciuto come cosa, ed è una di quelle storie sempre a metà tra il vero e il falso, chissà se ma c'è, sai, guarda, stato l'intervento, cioè, insomma, ma... mi fai scusami, ti prego, mi fai schifo no, perché mi hai fatto venire in mente che proprio con questo che hai detto, che questo tipo di approccio, cioè quando uno legge Shadows on the Vatican subito pensa a Dan Brown, no, col filone dei, insomma, quella fantarcheologia che mi fa cagare. Invece non c'entra proprio assolutamente niente, no, perché molti hanno detto questo, cioè addio, un'altra storia sul Vaticano, che palle, cioè, invece il nostro gioco è un pochino più, come dire, più politico, più italiano in un certo senso, cioè noi cerchiamo veramente di dare un'impronta italiana al gioco, cioè non perché è ambientato a Roma, ma proprio perché per i temi trattati, perché noi siamo fatto anche da italiani, quindi comunque persone, sì, che, però cioè... sai che non è così scontato dire che qualcuno che è italiano fa un gioco italiano, cioè lo so che sembra strano, però in genere noi abbiamo una percezione, specialmente nei videogiochi, di cercare di replicare qualcosa che abbiamo visto da qualcun altro altrove, no? Cioè uno stile italiano non esiste, secondo me, nei videogiochi. Forse esisteva appunto ai tempi della Simulmondo, cioè, perché comunque loro in qualche modo avevano stabilito uno stile italiano, però non mi vengono in mente giochi proprio italiani, cioè uno dice sì, vabbè, però c'è un tipo di linguaggio, di estetica, no? Anche di poetica italiana. Non dico che noi ambiamo a questo, cioè stiamo cercando di fare questo, però quando si parla di cattolicesimo, quando si parla di Vaticano, noi siamo vicini proprio geograficamente, per cui la nostra percezione è diversa da quella di un americano, per esempio. Quindi se una cosa che ho cercato sempre di inserire nel gioco, per esempio, è tipo di ignoranza che ha l'italiano medio di fronte alla religione, no? E anche alle altre religioni, no? Perché noi proprio come educazione siamo cattolici, abbiamo vissuto in un ambiente cattolico e quindi diamo per scontate un sacco di cose, no? Quindi c'è pure questo lato un pochino critico dell'italiano, cioè non è che stiamo lì a guardare i monumenti storici, a fare la visita guidata con l'enciclopedia sotto, cioè noi cerchiamo proprio di prendere la cosa, le cose più, diciamo, paradossali, anche brutte, no? Perché comunque si parla di un complotto politico che in qualche modo coinvolge proprio i piani alti, come si dice, no? Quindi qualcosa che non è molto edificante per noi italiani. Il protagonista è americano, e questo forse un pochino ci fa dà la possibilità di far vedere un occhio esterno, però anche lui in qualche modo, io ti posso dire che nel terzo episodio secondo me abbatteremo un bel po' di barriere dal punto di vista narrativo, cioè cercheremo proprio di fare qualcosa di abbastanza ardito. Ma lo dico perché lo sto facendo io, però, beh, no, dico, però di sicuro chi meglio di te sa che cosa, no, appunto, è più, cioè, per questo cosa succederà, è più per questo, insomma, no? Noi cerchiamo, perché nel primo episodio abbiamo dovuto comunque introdurre la vicenda, nel secondo abbiamo potuto far vedere un pochino di cose, di sporcizia, diciamo, italiana, così anche un ambiente malavitoso di un certo tipo, e nel terzo saranno mazzate da tutte le parti. Cioè, terzo, cercheremo di girare il coltello nella piaga. Quindi, ecco, per me è proprio quasi esaltante, no? Fare un gioco anche episodico. Poi non, cioè, il fatto che io, come ho detto, ho preso il progetto quando era già partito, comunque c'era una preproduzione e tutto. Però lo sento anche mio per come mi hanno lasciato comunque scrivere i personaggi, anche quelli secondari, no? Quindi, soprattutto adesso che mi è stato dato modo di scrivere un po' di più, comunque per i personaggi e anche per la sceneggiatura, per la storia in generale, siamo arrivati in un punto in cui è praticamente impossibile fare di peggio ed è molto facile fare di meglio, secondo me. Cioè, quindi insomma, comunque prima che esca il terzo capitolo trovate gli altri due appunto su Zodiac, mediostore.com. Il primo ha un costo davvero piccolo di 5,99 euro. E il secondo non ho idea. Mi sembra che sono tutti e due lì. Sì, però forse c'è il pacchetto pure. Fra l'altro, noi dovremmo uscire anche nei negozi proprio questo mese, a luglio, forse a fine mese, con la versione retail con tutti e due gli episodi. Comunque si troverà anche su Zodiac sempre, quindi ecco, tranquillamente. Quindi io vi consiglio di darci un'occhiata, appunto, essendo un prodotto nostrano. Di qualità, penso poi che poi, tra l'altro, dico l'ultima cosa e poi mi sto zitto, giusto? sto parlando troppo, vabbè, perché quando si parla del progetto mio. L'ospite lo facciamo parlare, trattiamo come tale. Io una cosa volevo dire sugli episodici, cioè c'è molta diffidenza. Io un pochino la capisco, perché quando l'episodico viene gestito in modo un po' discutibile, come abbiamo fatto noi, no? Ci sta un pochino di autocritica, perché noi il secondo episodio è uscito troppo tardi e abbiamo avuto dei problemi, chiaramente, di magari ne parleremo un'altra volta, comunque di sviluppo eccetera, e quindi ci siamo, è tardato un po'. Però c'è anche da dire questo, cioè il ragionamento, il gioco mi interessa però aspetto la serie completa, ammazza proprio l'idea dell'episodico. se il gioco interessa, e dico solo se il gioco interessa, poi perché c'è anche una demo che si può scaricare tranquillamente, cioè quello che posso dire è comunque di supportarci, perché se no altrimenti noi abbiamo sempre più difficoltà a cercare di andare avanti, no? Questo ovviamente lo dico, ripeto, per chi è interessato. Chi non è interessato, grazie, cioè magari aspetta la fine o non lo prende proprio e tutto quanto. Però se veramente interessa, dato che parliamo comunque di prezzi onesti, ma comunque ci sono anche un sacco di offerte, spesso scende anche a 3 euro, quindi insomma parliamo, cioè voglio dire, non è molto, cioè la cosa migliore per noi che siamo appunto indipendenti, piccoli team eccetera eccetera, è meglio supportarci. Il discorso aspetto la serie completa non esiste, ma anche perché il tipo di struttura narrativa è fatta apposta per un episodico, cioè c'è proprio uno studio seriale dietro, non solo per il cliffhanger alla fine, ma per tutto il resto pure. Va bene, sì. Io direi che detto ciò possiamo anche passare alla fine dell'episodio. Riprendiamo con, vi ricordiamo che dovrebbe breve nascere, o forse sarà già uscita, la rubrica Geronto Gamers, curata da Alex Racuglia, il Pizzi, il Distruggitore, il tanti altre persone VIP, VIP, no. Esatto, una serie di VIP, gente che vi raccomando caldamente, insomma. E insomma, quindi tenetevi sintonizzati ancora su DVL, perché la roba sta arrivando, mettiamola così. Poi abbiamo qualche commento degli ascoltatori, ringraziamo Andrew che chiede a Luigi Marrone di fare lo spelling della parola, di una parola che usa molto di frequente, che dice che è fondamentalmente, ma lui la pronuncia troppo velocemente, quindi chiederemo a Luigi di farci lo spelling più in là. Poi salutiamo Game Over con un interessante commento abbastanza lunghetto, che per ovvi motivi non sto qua a leggere, ma che trovate sempre nei commenti al 14° episodio, quindi per l'episodio precedente. Morgan, anche sulla 13, che salutiamo come sempre, dice che ci vorrebbe sempre la presentazione di una nuova console per ottenere episodi come quelli. Adesso mi chiedo perché. Troppo buono, Morgan, grazie. Poi da IPN, quindi da YouTube, Marco Paglia ci chiede se la canzone citata nel video questionando su roba da podcast selvaggio è We Like to Party dei Venga Boys. Sì, era We Like to Party dei Venga Boys, che io saluto perché erano qua a Zurigo qualche giorno fa e purtroppo li ho persi. Mi dispiace, adesso penso che abbiano 50 anni per gamba, ma insomma, cosa bella. Ecco, poi me li riascolto, mi viene velleità anni 90. Dalla pagina Facebook niente, anche se qualcosa c'era ma non è segnata. Dei Tunes niente. Da Google Plus c'è William Shatner che come al solito chiede why what the fuck, perché se non riesco a farlo bene quanto Marco Gualdi purtroppo. E niente, detto ciò, appunto spero che l'episodio in formazione super ridotta vi sia piaciuto. Volevo anche dire che ci sarà presto un articolo stupendissimo su dietrologia videoludica sul sito. Oh. Quindi mi raccomando, no, perché ho scritto una cosa, quella deve essere pubblicata. Per cui pizzi, colpa sua. Ecco, tu ricordati, fai salvabozza molto spesso. Perché è andato perso nel tempo come lacrime nella pioggia, quindi sì, lascia stare non ne voglio parlare, sto ancora tirando bestemmie non ho più scritto niente dal giorno da nessuna parte, cioè neanche a lavoro ormai scrivo neanche il mio nome, guarda. Cioè, comunque, e niente, quindi saluto e ringrazio Simone cognome Andreozzi. Grazie a voi per l'ospitalità. Ospitalità che è il podcast, anche tu. Cosa, cioè, Cristiano, che appunto che ospite, che ha fatto l'ospite onorevole, che ci ha narrato tante belle vicende, qualche anteprima, insomma, sul nuovo gioco. Appunto, vi ricordo di supportare in generale gli sviluppatori indipendenti validi, ovviamente, e a maggior ragione quelli italiani per ovvi motivi, insomma, se ci tenete un po' ai videogiochi è meglio che anche noi ci diamo una mossa, insomma, sganciamo qualche euro, anche se piratate tutto, sganciate qualche euro anche per una buona causa, mettiamola così, se potete, se no non lo so, ci vediamo tutti su su The Pirate Bay, quindi come al solito le mie conclusioni sono sempre la colata a picco. No, è uscito da poco su Emule, ve lo dico subito. Sì? L'hai scoperto? Sì, qualche settimana fa. Ah beh, vabbè, vuol dire che comunque trovate lì, se no, volete. Vabbè, secondo me è un segno positivo, mettiamola così, perché vuol dire che c'è interesse nel, cioè che altre persone ce l'abbiano. Lo dico tranquillamente, come vedi, cioè. No. Secondo me è un bene, da come dire, io sto dall'altra parte, ma è un bene in un certo senso, mettiamola così. Quindi Shadows on the Vatican, ringrazio appunto Cristiano. Sì. E ci sentiamo presto col prossimo episodio di DVL. Un bel saluto collettivo a tutti. Ciao. Salutiamo. Ciao. Ciao amici, welcome to Geronto Gamer. Oh, ma che sta a giocare? E sto giocando Call of Duty 28 Futuristic Warfare. E basta con sti giochi commerciali, non se ne può più, ma può essere che non ci sta più in giro una cosa seria fatta di idee nuove e originali. Lo so, ormai non ci stanno più le case indie della volta. Ma ti ricordi quella casa indipendente che faceva quei bei giochi, tutti indipendenti, stilosi, pieni di fantasia? Cosa? La IE, bravo. Quanto erano bravi, c'avevano una fantasia, erano dei geni. Con due poligoni, con le silhouette, facevano certi giochini come coso, quello dei morti viventi, coso Prince of Persia, bravo Prince of Persia. che idee innovative che ci avevano loro. Si vedeva che erano pieni di passione, di amore verso il videogioco. Era gente che il videogioco lo faceva diventare arte, non come quegli avidi che facevano i giochi di AAA, con tutti quegli effetti speciali, tutta quella RAM, quei gigahertz sprecati. Senza l'anima. Sì, sì, senza anima, bravo, bravo. Comunque, a me i giochi indie mi hanno sempre fatto schifo. Io non ci ho mai giocato. E manco io.